insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Si vergogna, si dimetta dalla posizione che ha. Io non so come fare a tenerla lì. Ecco, capito? Anche questo è vero, ha ragione Libano. Un insultatore. Ma roba, dai, io esprimo le mie idee. Guardi, le do un consiglio, dato che io non sono d'accordo con lei, mi chiuda la, no, la comunicazione. Assolutamente perché no. Lei è perché? Anche un personaggio del genere, sì, che quando fa girare le palle chiude la comunicazione. Si vergogni. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Asmodeo! Asmodeus! Satanas! Lucifer! Asmodeo, va via! Lasciami stare! A me ne piace usticchio! Asmodeo! Venti di Parenzo! Asmodeo! Venti di... Venti di Parenzo! A me ne piace usticchio! Ciao Parenzo, non saluto quel stronzo l'altro perché non vuole essere salutato, quindi mandiamolo a fare in culo. Mandiamolo a fare in culo. Allora io ti voglio fare una domandina, Davide. Tu entri dentro casa, immagina sto film, c'è tua moglie a pecorina con il rom di turno, con il nero, con l'italiano, anzi con l'italiano. Già qui stiamo, come dire, andando. No, moglie a pecorina con. Scusami, fino adesso avete parlato dei cazzi, moglie ti dico pecorina. No. Ma chi è? Allora, tua moglie strilla non perché sta godendo, strilla perché gli fa male. Vorrei sapere, ma tu che fai? Ti avvicini, gli dai un colpettino di dietro sulla spalla e dici vogliamo parlarne? Io questo non ho mai capito di te, lo sai? Io mi immagino, David, aiuto, aiutatemi, si stanno inculando mia moglie! Attenzione, attenzione, attenzione, caro Parenzo. Attenzione. Questo è sempre il regista. Sì, certo. Che è stato incarcerato a Guantanamo, ricordiamo. Condannato da tutti i tribunali internazionali. Allora, attenzione, attenzione, attenzione. Sì. Il signor, mi riferiscono. Ce l'ho qui tra le mani, caro Parenzo. Ce l'ho qui adesso, detta così. No, non si riferisce. Non si riferisce alle parti intime. Si riferisce a un oggetto. Si riferisce a un oggetto che ho qui tra le mani. Mi riferiscono sia di proprietà del dottore Giannino. Trattasi, forse tu lo conoscerai, di un orologio preziosissimo del valore, mi dicono, di 5-6 mila euro. Potete andare a controllare. Di, com'è che si chiama? Jaeger LeCoultre, il reverso. È il famoso orologio di proprietà che venne... era al polso delle SS, così mi dicono all'epoca. Jaeger LeCoultre, l'epoca. Io non lo conoscevo, reverso. Lo ha dimenticato qui, non si capisce per quale motivo. Orologio molto prezioso, del valore, ripeto. Cioè, tu dici che a questo punto lo potrebbero aggredire per strada, dici? Sì, no, ecco, appunto, mi sembra una cosa simpatica. Taci, miserabile! Ha ragione Giannino. Comunque, caro Oscar, ce l'abbiamo qua, è in nostro possesso, adesso lo daremo, lo metteremo dove... All'asta. Beh no, all'asta no, lo metteremo dove va messo, cioè in una cassaforte, perché qui insomma il valore di questo orologio mi pare notevole, molto pesante tra l'altro. Ma perché devi scendere nei dettagli? Io ho già l'orologio che vuole. A me piacciono i dettagli, che cazzo vuoi? Mi piacciono i dettagli, i particolari. Un orologio da ricco, sempre. No, non ho detto da ricco, ho detto un orologio del valore di, ho detto solo questo, non è che ho detto da ricco, del valore di. Ma è bellissimo, è stupendo, è meraviglioso, a me non piacciono gli orologi, Vogliamo ricordare cosa disse Renzi nel 2015 dell'Alitalia? Diciamolo, dai, su, ricordiamolo, dai. Allo stesso modo voi allacciatevi le cinture. Alitalia decolla. Ma il decollo di Alitalia è il decollo dell'Italia. Il decollo dell'Italia è il decollo di Alitalia. E allora, lasciatemelo dire, se vola Alitalia, viva l'Italia. Non è un gioco di parole che farà contento Crozza. è l'unica vera chance che voi avete. Giugno 2015. Giugno 2015. Allora, Salvini, gli immigrati si fanno i cannoni e fottono i telefonini. Mamma, questa la sintesi. Che degrado ormai. Che... questi signori, secondo qualcuno, sono quelli che ci dovrebbero pagare le pensioni. Per il momento ci fottono i telefonini e si fanno dei gran cannoni. Poi al Parlamento europeo dice: invece dei carri armati usate le banche e gli immigrati. Salvini contro i burocrati europei. Invece dei carri armati usate le banche, la finanza e un'invasione di immigrati, finti profughi, finanziati da speculatori senza scrupoli come Soros, che magari finanzia anche qualcuno che è seduto in questo Parlamento o qualcuno che è seduto in questa Commissione. Non riesco a togliermi dalla mente l'immagine della faccia di Parenzo a forma di scroto di Soros. Allora, a proposito, Parenzo... Ma tu ti rendi conto, lascia stare Soros, ti rendi conto che Salvini usa le stesse immagini che si usavano negli anni 30, cioè durante il periodo addirittura, cioè durante che il periodo nazista, le banche, gli immigrati, bravo, Soros il grande finanziere, cioè usa tutto un immaginario, c'è la propaganda nazista di Salvini, che è proprio degli anni, quella stessa che si usava negli anni 30. Ti invito, tu hai fatto l'esame di storia, scienze politiche, vabbè, tanti anni fa, non mi ricordo un cazzo, no, ma ti invito a ragionare su questo, facciamo un attimo un focus, un punto, no, un vero focus. Ma invitiamo che focus? Non pronunciare storico la parola focus. Invitiamo focus. Paolo Mieli, ragioniamo con lui. Ma ragiona su questo. Te, ma... No, voglio ragionare con te allora, tra diciamo un cazzo e un trans, vorrei ragionare con te su questa cosa, ma con grande bagatezza. Ma è politica, come perché la fanno tutti, dai. Non è politica, dai. È uso ma dello come stereotipo la anni 30. Ma anche no, altri no, fanno no, propaganda allo stesso ma modo, c'entra? Dai. Ma qui si usano gli stereotipi. Però aspetta, aspetta, adesso ti faccio godere con una cosa. Niente. Ti faccio godere con una cosa. Allora, c'è il procuratore di Catania, Zuccaro, che interviene in tre trasmissioni. Una roba pazzesca, Matrix, quella. Aria che tira. Formalizzi prima i capi di imputazione, ci faccia capire chi sono quelle ONG di cui li parla. Saranno attacca, due o tre su mille, attacca, su mille. Attacca le ONG. Ma quel procuratore, guarda, dicendo, ma dicendo, guarda, mi piace poco quel procuratore lì, mi piace proprio poco. Dicendo addirittura che vogliono destabilizzare l'economia italiana. Senti, le ONG perseguono la destabilizzazione. Ma a te sembra normale che un magistrato parli in questo modo? Ma prima parlano ancora tutti in Italia, ma appunto, dai, su parlano ma prima tutti ancora in Italia. Col clima che c'è, prima ancora di aver formalizzato, cioè le si dovrebbe dimettere, secondo te dovrebbe lasciare l'inchiesta? Ma dovrebbe intanto stare zitto, primo dovrebbe starsene zitto. Parenzo vuole tappare la bocca al magistrato, non tappare la bocca, stia zitto. Ma uno che dice una cosa diversa dagli altri, ci faccia capire chi sono quelle 2/3 ONG che peraltro hanno sede a Malta e non hanno nulla a che vedere con l'Italia. Beh, alle quali si riferisce, e non sputi merda su tutte le altre grandi ma organizzazioni che ad oggi no, comunque secondo te dovrebbe stare questo. Zitto, dovrebbe stare ma zitto, ma non secondo senti, me senti, ma il CSM dov'è? Vabbè, il CSM, ma non pronunciare il Consiglio Superiore della Magistratura, ma dov'è? Chi se ne frega, dov'è? Lo richiami all'ordine, dov'è? Ma come che ce ne frega, ma scherzi. Un traffico che oggi sta fruttando quanto il traffico della droga, moltiplicate 8.500 per 600 euro circa, che è il costo di ogni viaggio, e avrete delle cifre che sono abbastanza significative. 8.500 in 3 giorni, in 3-4 giorni. Potrebbe anche essere, forse la cosa potrebbe essere anche più inquietante, che si perseguono da parte di alcune di queste ONG finalità diverse, di destabilizzazione per esempio dell'economia italiana. Destabilizzano l'economia italiana. La cosa abbastanza incredibile anche per me, che sono per la libertà di parola anche dei magistrati, in questo caso che intervengono nella trasmissione dicendo che ci sono delle ONG sospettate di, è che lo stesso Zuccaro dice non ci sono prove. Non ci sono prove di legame tra ONG e scafisti. Bravo, ma tu ti rendi conto? Senti, senti, Matrix. E allora di che cosa sta parlando? Che evidenze ci sono di contatti tra migranti, scafisti e ONG. C'è qualche evidenza? Se per evidenza si intende l'esistenza di prove, cioè di fonti di conoscenza che possano essere utilizzate processualmente, purtroppo no. Questa ma allora di che cazzo parla? No, devo dire la ma verità. Ma di che parla? Ma lui facesse le inchieste, ma cos'è, un sociologo? Partecipa a un talk show, effettivamente. Ma no, ma quello chi se ne frega? Ma è un sociologo? Che cos'è questo qua? È Sigmund Bauman? No, non è Bauman. Abbiamo falso, cosa conoscenze fa? E non prove, senti. Ma quello è un magistrato, con le prove deve parlare, con degli elementi, non con le analisi. Se abbiamo delle rilevazioni satellitari effettuate da forze di polizia che non hanno funzioni di polizia giudiziaria, noi abbiamo delle conoscenze e quindi delle certezze, ma non abbiamo delle prove. Chiaro. Abbiamo bisogno che queste prove ci vengano fornite dalle forze di polizia giudiziaria. Ma guarda che è una cosa incredibile, ma incredibile, una roba pazzesca. Sì, però ha spiegato, dice, per adesso non abbiamo prove. Abbiamo delle cose. Ma allora di che cazzo parla? Di che parla? Allora dovresti avere il coraggio di dire stai zitto, stia zitto, Zucchero, stia zitto. Intervenga il CSM. Si dimetta dalla magistratura, dovrebbe dire. Ma non si dimetta niente, intanto intervenga il CSM, gli tolgano l'inchiesta, perché un magistrato che va in televisione e dice la situazione è questa qui, ci avete prove? No, nessuna per ora. Che cazzo parla allora? Ma chi sei tu? Ma che roba sei? Come Giulietto Chiesa. Ma chi sei, il Giulietto Chiesa della magistratura? Cioè no, perché la Siria non ha arrestato, è il Mossad che ha bombardato. Ha le prove? No, nessuna. Ma di che cazzo parli allora? Ma tu sei un magistrato, no? Cioè devi portare delle prove. Dovrai portare, chiedere il rinvio a giudizio. Giulietto Chiesa della magistratura. Ma dai, su, vabbè, s'arrabbierà, mi allora, metterà sotto inchiesta. Allora, lo chef Rubio, ecco, un altro di buono. Un altro scrive buono. Questo, Rabbi. Rivolto a un rabbino generico. La storia è ciclica. Prima pecore, cioè gli ebrei, ora lupi. E lo sanno tutti che il terrorismo non ha la kefia, ma va in giro con i tank, con i carro armati. Cioè praticamente i terroristi sono gli israeliani e non i palestinesi. Onde che chiudete, cornuti? La Zanzara. Senta, io sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria che dà molte informazioni, però voi siete due imbecilli. Quell'altro, l'Italia lo dovrebbe portare in Israele, quello stronzo, quello che c'ha gli occhietti di dopo. Allora ragazzi, io vorrei riaprire la questione Mandarà. Allora, il signor Mandarà è un signore ex grillino. È un signore delirante, è uno che faceva le riprese sul palco di Grillo. No, è semplicemente un signore disturbato, semplicemente. Allora, ieri ha sostenuto Hitler voleva la pace, gli hanno scatenato addosso una guerra. I 6 milioni dell'Olocausto è un numero, sì, presunto, la storia è piena di cazzate, non ci sono prove dei 6 milioni. Noi non abbiamo nemmeno fatto sentire, ma adesso ve lo faccio sentire. Hitler è stato messo lì dai banchieri sionisti. Ma tu ti rendi conto? Senti. No, ma ti chiedo, ti rendi conto? Altra cosa importante su questo grande tiranno Hitler è che lui fu messo lì al potere proprio dai banchieri sionisti. Lui è stato sovvenzionato dai banchieri sionisti perché in quel momento a loro faceva comodo che ci fosse qualcuno da mettere al potere per poterlo poi ribaltare magari in un secondo momento. È sempre successo così. Anche Saddam Hussein è stato messo lì dagli americani. Allora, siccome ieri l'abbiamo preso per il culo per queste follie. Beh, che dice, secondo me, se tu vai in un ospedale psichiatrico, non trovi uno più matto di lui che sostiene queste demenze. Tu dici uno veramente matto che ha dei problemi seri. No, dici così, no, non arriverebbe più, mai stabile, a questa, dice, sicuramente non arriverebbe mai a questo delirio. La risposta di Mandarà. Senti, perché una cosa dice anche delle cose gravi. Se non fosse Mandarà, uno le prenderebbe come gravi. Ma che? Siccome Mandarà, senti, testina. testina di un sionista, a me non interessa quanto sei pagato dal Mossad o dalla CIA o da Radio 24, tu comunque prima o poi pagherai per i crimini che commetti, capito? Prima o poi pagherai anche solo con la tua coscienza. Io non so se tu hai dei figli, spero di no, poverini, ma se nel caso disgraziato in cui tu avessi dei figli, quando questi cresceranno, se hai una coscienza, ti renderai conto dei crimini che hai commesso, capito? Nascondendo tutti i crimini commessi dallo Stato criminale di Israele che tu difendi. Vi verranno a cercare a casa. Ce l'aveva con me questo? Sì, beh, certo che ce l'aveva con te. Appello agli amici del Mossad all'ascolto, per cortesia. Effettuare una extraordinary rendition, quelle straordinarie operazioni che una volta si facevano quando l'aviazione israeliana individuava. Ti ricordi quando ucciso lo sceicco? Sì, come no? L'operazione chirurgica, però, amico mio, con lo sceicco. Non si sporcano le mani. Lo sceicco del terrore! Lo sceicco del terrore individuato da droni, no? Che viaggiava lì nel deserto, individuato la macchina. Ricordo benissimo, sì, il vecchio maledetto. Ma è esploso lo sceicco. Ciao, bye bye. No, però stai dicendo, amico mio, Mandarà. No, ho detto bye bye. Mandarà. Bisogna fare un'altra operazione. Bisogna andare lì con otto persone vestite con un camice bianco, quelle sempre macchine. Sempre del Mossad, però, a controllare. Hai invocato il Mossad prima. Sì, quelli possono individuarlo, no? Individuare la zona dove si trova. Comunque, senti, perché non è finito là. Non è finito là, senti. No, ancora. No, aspetta, ma dove le dice queste cose, scusa? Ormai tutti possono, arrenditi, sì, su questo, sì. Tutti possono dire tutto, so, tutti so, possono questo... dire tutto, ma e avere eco, e avere eco. Ma è giusto così. È giusto così, sì. Per lui è giusto così. Sì, assolutamente. È giusto che l'opinione di Mandarà valga quanto quella di Stiglitz. Vabbè, ma sì, ma assolutamente. Va bene, d'accordo, andiamo avanti, senti, così, senti, disarticoliamo, senti, tutto, andiamo avanti. Prima o poi pagherete, arriverà il momento in cui la gente finalmente si sveglierà e vi verranno a cercare a casa per aver raccontato cazzate, per aver nascosto i crimini di guerra di Israele, degli Stati Uniti d'America, dello stesso governo italiano, quello che sta cercando di fare la vostra amichetta Boldrini con il discorso delle fake news. Pagherete tutto, è solo questione di tempo. Solo questione di tempo, pagherete tutto. Ma che chi? Dobbiamo pagare? Dobbiamo pagarti una lunga degenza in un ospedale, una clinica, allora, apposta. Questo Sebastiano dalla provincia di Ancona, andiamo, dai. Sebastiano Varisoni è questo. No, che ciao, ragazzi. Comunque, sto orologio non mi sta male, devo dire la verità. Beh, certo. Cioè, stai fregandoti l'orologio di Giannino. No, sto qua, lo conservo. Molto prezioso, caro Oscar. Ce l'ho qui, non ti preoccupare, non finisce in brutte mani. Sai, non è meglio mandargli un messaggio privatamente anziché questa cagnara al telefono? Ma perché cagnara? Ho trovato una cosa qua, come pigliamo per il culo Barisoni quando lascia il portafoglio, piglio per il culo Giannino che lascia l'orologio qua, sì, dai. No, il portafoglio in generale. Sebastiano, provincia di Ancona, vai Sebastiano. Marisoli, lascia il portafoglio. Ciao ragazzi, buonasera. Volevo intervenire sul procuratore che parla e sparla, secondo me, sui taxi del mare. Quelle sono persone che salvano, sì, vite umane in mare. Allora, quelle cui si riferisce il procuratore non sono affatto ma benefattori, quali, fanno affari. Quelli, sì, ma d'accordo, ma quali? Un non paio, due, tre. Sì, ma quali? Le ha dette anche. Primo, le accuse che sono maltesi, sono due, ma accusare Sebastiano, tutto il gruppo di quelle persone. Ma non ha accusato nessun gruppo di persone. Il procuratore ha fatto un discorso molto serio. Poi uno può discutere, non mi pare per nulla serio, francamente, quel discorso. Ma lo ha detto lui che non ha prove, figlio mio, l'ha detto lui. Ci sono alcune ONG che sono che in contatto diretto con queste cose, che sì, sono con in contatto d'accordo. Diretto con gli scafisti, contatto d'accordo, diretto d'accordo. Con gli scafisti. Perfetto, ma questo è grave, perfetto. Se è vero, questo è grave ed è un reato e va, certo, perseguito, ma far passare questa cosa come una macchia su, bravo, tutto quel sistema d'aiuto, ma chi l'ha detto? È ma una chi l'ha enorme detto? Cazza, ma come, bravo, Giuseppe? Non l'ha detto, ma tu i media li conosci, prima che ti togli da dosso un'accusa di qualsiasi tipo. Domani Cruciani stupra bambini, sono 20 anni che proverai a discolparti, allora, di quello. Ma no? Io non lo so, lo io so solamente una cosa: so che alcune ONG sicuramente fanno questo lavoro qui. Non ma so se dire? In contatto con gli scafisti, no, con la guardia costiera. Prendono le persone con la e invece costiera. Di portarle a Malta o in altri posti, chissà perché arrivano in Italia. Questo ma la fanno con la guardia costiera? Io voglio sapere da questo procuratore. Li portassero da qualche altra parte. Dal procuratore voglio sapere di chi li possono portare dovunque, va bene. Se fanno affari, li portano dovunque, anche su un sasso in mezzo al Mediterraneo. È reato comunque. Vabbè, Antonio, certo, da Teramo, dai, Antonio. Bravo, ciao. Antonio, vai. Buonasera. Antonio, dimmi, dimmi. Buonasera. Sono giorni, mi spiace interrompere la vostra conversazione. Non sui c'è balconi. Nessuna interruzione, Antonio, ecco. Tu puoi parlare di quello che vuoi, dimmi. Ecco, una domanda comunque che mi frulla da giorni, la voglio rivolgere a Parenzo. Sì. Volevo chiedere a Parenzo, eccoci, ma tu, una sessantenne, l'hai mai scopata, Parenzo? Questa è buona come domanda, ma dipende a che età, naturalmente. Che adesso caduta linea, pronto? Cellulare no, caduto no, in acqua, pronto, pronto. Non incominciare pronto a fare il cinese. No, io risposta voglio dirti no questo. Risposta ascolta. No, risposta no, no, ti ha detto, no, fare di più? Ti ha detto no. No, risposta no, non mi è mai capitato. Una di 20-25 anni più grande, tipo Macron, ti è mai capitato? Ha detto di no. No, ha detto di no, ha risposto in maniera chiara. È un crimine. Allora, io quello che volevo sottolineare per chiarire tutto quanto l'ambaradan. Ma non c'è niente da chiarire in realtà. Questo professore che vuole chiarire che cosa? Scopare una sessantenne è magnifico. Va bene, benissimo. Adesso che abbiamo appreso questo, ma scusa, Antonio, però secondo è interessante. Lei... Antonio, scusami un attimo. Sì. Dipende che dai, se ne hai 55 la senti di meno la differenza. Tu l'hai fatto a che età l'hai fatto? Ma io l'ho fatto anche a 40 anni. Cioè a 40 anni e lei quanti ne aveva? 60. Ma amico mio, ma perché deve essere di interesse pubblico questo argomento che lei introduce? No, perché secondo lei? Pubblico... No, ferma. Perché lei è un esibizionista. È un povero esibizionista, sicuramente. Le ho fatte sempre fra quattro mura. Beh, no, ce lo sta dicendo. Grazie, l'ha detto a 2,5 milioni di persone. No, vabbè, la ringrazio. A distanza di 20 anni è una cosa che può tranquillamente, che bene, può essere tranquillamente le piace così, caduta in prescrizione. Ma ti assicuro che è magnifico. Bene, la donna che sappiamo 60 questo? Anni, la sì. donna 60 anni, non sì. ha più secrezioni. Bene. Di conseguenza, grazie secca. Anche dei dettagli. Non mi grazie anche dei dettagli che lei mette. Di conseguenza. Non ho capito. È un insegnamento, è un insegnamento ma io non ho capito una cosa, non ha più secrezioni, che cazzo vuol dire? È negativa questa che cosa? La bellezza è proprio lì, ma no, amico mio, scusa, ti sbagli, è quella. Per carità, de gustibus, cioè, si sta parlando sempre di gusti personali, ma che vuol dire non ha più secrezioni? Non ho capito. Cruciani, no, dimmi, amico mio, dimmi. Anni dopo la menopausa una donna non ha più secrezioni vaginali come una ragazzina. Dunque la bellezza è proprio quella. Beh, avere attrezzature tipo un gel. Ma lei particolare. È sposato? Come? Lei è fidanzato? È sposato? No, io sono sposato, sono divorziato, ho ottimo. Una compagna, sì. una rompicoglioni numero uno. Perché rompicoglioni? Che ascolti la radio, perché così stasera quando lei torna a casa la aspetta con un bastone nodoso alla porta. Scusa, speriamo, perché è una rompicoglioni la tua compagna? Non ho capito. È una rompicoglioni per un motivo semplicissimo. Che non ti lascia fare il cazzo che vuoi, questa è la realtà. No, fe, aspetta. Quello. Il discorso è questo, fino ad un certo punto... Sì. Tutto bene, si scopava con ma il Ricci. Ce lo dice a noi in diretta così? Ma cosa me ne frega? Avviene la famosa crisi mistica. Non c'è crisi, c'è un altro perché gli hai rotto i coglioni, te lo dico io. Ma siccome sei un poveretto, ma che crisi mistica? Te lo dico io, non c'è crisi, sei dici? Un poveretto, fattene una ragione, sei un cornuto, c'ha ma un dai, altro ma... e si diverte di più perché avere a fianco un compagno come te che fa schifo, che telefona in una radio nazionale per raccontare queste porcherie, quella c'ha una. Altro, hai capito? Non fermo sono lì, mistiche, baffe mandate a quel paese tutti. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. La zanzara. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. I caught you looking like a million. Ragazzi, è semplice. Se volete parlare delle vostre fidanzate squirtatrici professioniste, o volete parlare dei risultati usciti scrivendo su internet la parola hot mom, o volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete parlare dei vostri desideri porno erotici sulla moglie di Macron, o volete parlare di quanto vi siete cagati addosso dopo la scopata con la minorenne, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo al Cugato. Le armi, i salami, Cruciani, pagato da Beretta! Cruciani, ma come fa a piacerti la moglie di Macron? che in mezzo alle gambe avrà minimo minimo ragnatele, farfalle, pannolone, di tutto di più. Sei un perverso, Cruciani, sei un perverso zozzo. Perverso zozzo. Ragazzi, comunque sono cazzi, eh. La Cassazione, ecco, a Roma, la no, Cassazione c'è una a cosa Roma. Da dire, c'è un'altra cosa da dire qui, perché io ho sentito prima il telegiornale, no? Sì, radiogiornale, fatto... sì, non telegiornale. Vabbè, radiogiornale. Giornale radio. Giornale radio. Sei vent'anni che fai la radio, sì. Ancora sì, non hai capito. Vabbè, giornale, comunque. Ho sentito che in genere faccio le mie telefonate. In genere faccio le mie telefonate, invece oggi ho seguito. Il radiogiornale chiude dicendo alla parte tecnica Piero Lacorte, che è il regista nostro. Pietro Lacorte. Bisognerebbe dire alla parte criminale Pietro Lacorte, non alla parte tecnica, alla parte che il procuratore capo di Catania, anziché indagare su quelle due tre ONG, ma indaghi la corte per questi audio che ritaglia, che si risminuzza e rimonta per bontà sua, a gusto suo. Lì Catania, procuratore, indaghi la corte, indaghi la corte. Stai zitto, ciucciacazzi. Ecco qua, vedi, la risposta è la corte, capito? Quello è il criminale. Perché quello è un io guarda, se lo trovo, se quella corte è un criminale, va detto, chiaramente è un criminale. Cruciani, è una trasmissione piena di fascisti, hai fatto. Tutti i fascisti chiamano, hai rotto i coglioni, Cruciani. Comunque sera per televisione ho visto la moglie di Parenzo. Cula. Una bella donna, come cazzo fa a stare con un cesso come Parenzo? Questo è sempre, beh, no, questo qua viene dall'esterno, poi come dire, magistralmente piazzato dal professor Lacorte in apertura di trasmissione. Professor Lacorte, però professor comunque, Lacorte deve essere condannato dal Tribunale Penale Internazionale. Allora, davanti al Sole 24 Ore campeggia da un paio di giorni, Parenzo. Io pensavo che l'avessero cancellata. Sì, alla sua, davanti qui a Via Monterosa, d'accordo, una scritta enorme, ti giuro. Forse l'hanno notata in pochi perché pioveva, no? E la pioggia ha un po' coperto. Con lo spray nero, qualche simpaticone animalista, un'enorme scritta davanti, Cruciani pezzente. Beh, questo non ma è male. enorme, scritto davanti. Non è male, perché almeno questo è un gesto coraggioso, anziché mandare un gesto WhatsApp. Coraggioso. Sì, è un bel gesto. Ma i brigatisti facevano le scritte. È un gesto, adesso i brigatisti però scrivevano queste cose qua. È un gesto coraggioso qua, perché almeno questo signore che ha scritto questa cosa si è messo in gioco, ha preso lo spray, è venuto lì, ha rischiato di essere... Peraltro con le telecamere, sicuramente l'hanno inquadrato. Quindi è un gesto coraggioso. Allora, è un gesto coraggioso. Che si indaghi ma su per cosa? No, come no? Sul tuo essere pezzente, non no, credo, lascia perdere. Cruciani pezzente può avere mille significati. Sì. Sicuramente non è una cosa elogiativa, non è un complimento. Poi si firmano pure ALF, che è Animal Liberation Front, amico mio. Pure in America questi qua sono definiti dei criminali, dei terroristi. In Italia no, perché sono quattro scalzacani, sono quattro scannagatti. Non sono seri come in America. In America gente come questa, adesso non voglio usare la stessa terminologia, sì, come di Capanna, gente come questa in America va a fare i raid nelle fabbriche. Sì, bellissimo quello che hai detto. Che i raid meravigliosi. Beh, quelli raid belli quando occupi una fabbrica. No, è stupendo, questi vanno a mettere la produzione. Questi fanno degli attentati proprio, Capanna. Piccoli attentati, certamente, per mettere in discussione il sistema capitalista, mi pare meraviglioso. Sì, ma questi sono seri in America, ma non sono dei cialtroni come in Italia. Dovrebbe insegnare lei qualche cosa, Capanna, a questi dell'Animal Liberation Front. Questi fanno gli attacchi contro i capi azienda, fanno le cose serie che fanno i terroristi. Oh, da oggi finalmente questa struttura non si chiamerà più Radio 24, ma si chiamerà semplicemente Radio Capanna. E anche il titolo del giornale vostro, che mi pare si continui a chiamare ancora in modo incredibile Il Sole 24 Ore, chiameremo Capanna 24 Ore, che è meraviglioso, molto più bello, Capanna 24 Ore. Sparirà quell'inserto totalmente inutile che si chiama Norme e Tributi, quello che viene allegato mi pare il lunedì, e verranno date indicazioni su come si occupano le fabbriche. Un manuale, altro che Norme e Tributi, che va bene per i commercialisti. Nuovo inserto del Capanna 24 Ore sarà come occupare le fabbriche, come interrompere la produzione, come andare da questi padroni fare delle insurrezioni armate e cacciarli a pedate nel culo. Voglio ricordarti che il signor Romiti, che era a capo della Fiat, Romiti, quando ci vedeva davanti alle porte del cancellotto della Fiat, scappava con la scorta come un coniglio. Noi ma anche Boccia dice che deve scappare con i bulloni. Anche Boccia scappa. È andato via, Capanna, non lo so. Vabbè ragazzi, ero partito da questa scritta, sì, che c'è qui, non me ne frega un cazzo, niente, dico niente. Solo Animal Liberation Front. Vabbè, amici miei, ridere, siete pezzenti voi, fate le cose serie, andate ad attaccare seriamente oppure animalisti 100% invece di fare le scritte a cazzo di cane. Fate i terroristi seri se avete coraggio, che vi ingabbiano dopo due minuti se fate qualche minchiata qui in Italia, come in America vi fanno un culo così. Fate le cose serie, attaccate i punti nevralgici, direbbe Capanna, attaccate i punti seri dato che siete contro gli animali, cominciate ad attaccare seriamente, fate i terroristi seri, solo che non avete i coglioni di fare i terroristi seri perché siete quattro miserabili, questo è il punto, o più che altro siete quattro gatti. Ah, amico mio, a proposito di animalisti, tu lo sai che dopo la vicenda Berlusconi, Agnelli eccetera, adesso esce un nuovo programma, appare nel mondo della TV un nuovo programma. Guarda, cioè? Un po', secondo te chi lo condurrà questo programma? Su Rete 4, poi Replica, su Mediaset, eccetera. Prova a indovinare. Chi lo può condurre questo programma sulle reti Mediaset dopo l'appello berlusconiano sugli Agnelli, dopo quel filmato, eccetera? Secondo te quale figura femminile può condurre questo programma? Prova a indovinare, vai. Sugli Agnelli, dici. La signora tu. Michela Vittoria Brambilla. Senti un po'. Flower, e come si chiamerà? Guarda che questo è incredibile. Come si chiamerà questo programma? Mondo Cane. Dalla parte degli animali. Beh, ti giuro, dalla vostra parte, dalla parte degli animali. Ma a volte si può confondere, si può mettere in collegamento gli animali che ululano contro i politici. Finirà così questa commistione di generi. Benvenuti a Dalla parte degli animali, la trasmissione che si occupa di trovare una casa a tanti cani, gatti e altri piccoli amici sfortunati. Vi presento Paride. Potrebbe essere davvero il vostro compagno per la vita e quindi non aspettate per dare una nuova casa a Paride. E ricordate, se decidete di allargare la vostra famiglia. Ma non si limiteranno solo a questo, spero. Non ci faranno la trasmissione su dare una casa a Paride. Ci sarà un po' di battaglia vera, amico mio, spero. Altrimenti se ci fanno, ma non lo so, animalisti, vegani. Altrimenti se si limitano a questa roba qua, mi viene la tristezza. Voglio una roba di militanza animalista vera. Non diamo una casa a Paride. Magari canile municipale. Dai. Vabbè, comunque. Caro Parenzo, hanno chiesto 28 anni per Carminati, il signor Carminati, nel processo Mafia, sì, Capitale, certo, ormai non se lo incula più nessuno questo processo. Beh, vabbè. Io ricordo semplicemente che il signor Carminati, fino a poco tempo fa, faceva delle telefonate molto strane. Molto strane, te lo ricordi tu, signor Carminati? Faceva, sì, delle, certo, telefonate meravigliose, come importunava tutta Italia. Qui con Emilio Fede. Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Prego? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Io sono Giovanni Carminati, siamo parenti allora. Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io. Sì, ma io non vorrei spaventarmi. Segnalo sto nome, ascolta a me. Così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Tu sei uno stronzo sicuro. Io sono quello che abita là. Come? Io sono quello che abita là. Tu abiti dove cazzo abiti? In carcere, in quale cella sei? Se mi venite a fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, hai capito? Sì, aspetta un attimo, sei un rotto in culo però. Tua mamma è una puttana troia, aspetta. Sì, pronto? Io sono quello che abita là. Sì, una grande avuto. Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Ma chi sei? Non ho capito. Lei sta infastidendo, sei una grande avuto. Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Ma ci vuole un provazzo. Munniz, presente di persone, mi ci fosse sumanando da lei. Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io. Una grande avuto. Era l'accompagnatore del signor Fede. Del signor Fede a Napoli. Vabbè ragazzi, Andrea da Roma, vai Andrea. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi, allora, innanzitutto una cosetta, la Brambilla prende il tempo sottratto a Radio Belva nel palinsesto. No, dobbiamo amico, fare ma che c'entra? Ma dai, animali su... là, è roba vecchia, roba vecchia, roba ma vecchia. Io ho la versione in Blu-ray. Bene, ottimo, me la riguardo ogni tanto. No, ti volevo dire un'altra cosa. Per quanto riguarda la Topona, moglie della Macron, del Macron, io ho avuto un'esperienza, diciamo quella più significativa, quando ero al liceo con una professoressa, una supplente. Cioè, quanti anni avevi, scusa Andrea? Io ero tra i 17 e i 18. La storia... lei? Lei 43. 43 anni, vabbè, eri minorenne dunque, o no? No, ero minorenne, poi sono diventato maggiorenne e la storia è andata avanti. Allora? Fin quando lì non si è fatta sgamare. Vabbè, dunque? Poi sono stato minacciato. No, ti volevo dire che secondo me le donne molto molto mature che vanno con gli uomini molto molto giovani hanno sempre un qualche ciccinin di problema. Quindi ottima per una scopata, ma viverci insieme, guarda. Vabbè, quello poi sono affari suoi, scusa, che c'entra adesso? Cioè, se quello ha scelto di stare con. Se tu dici c'è qualcosa di nascosto dietro, c'è cioè qualcosa di problematico. Di problematico, dici. Di problematico. Però una cosa, una cosa è 17-40, una cosa è, che ne so, 35-70 o 35-65. No, nel suo caso è 39-65. 39-64-65. Vabbè, ma adesso, che ve ne frega? No, io non ho capito veramente. L'amore è amore, perché dovete andare? Perché ti spiego. Una grande problematica questa cosa qua. In Inghilterra c'è una grande discussione su questa, sulle cose francesi. Se ne discute, è normale. Se è la moglie del possibile, tutti i sondaggi la danno per vincente, il nuovo presidente francese ha 25 anni più di lui, è normale che si parli della storia tra Macron e questa signora 65 anni. Ma non è un fatto politico, è assolutamente è un una cosa politica. Tutto è politica, le cose private sono politiche, assolutamente. Fermi tutti, fermi che torna Carminati tra poco, fermi. Ma faccio tutto, solo culo niente, capito? Sì, questo l'ho capito, c'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico. Culo niente. Per una notte romantica. Culo niente. Impreparato mi toglie. Ehi, cosa fa? Capito. Chi glielo spiega a mia moglie. Ma faccio tutto. Vai col massaggio romantico. Oh, oh, vai con la notte romantica. Ah, ah, ah. Ma quanto è brava la Cina. Sì, solo culo niente, capito? Nell'arte della... Ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Manina. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Parenzo, ho un'idea. Perché non uccidiamo tutti quanti i rom e poi doniamo gli organi? Sai te quante vite salviamo? Il rapinatore ha donato gli organi, anzi i suoi parenti hanno donato gli organi perché così potranno chiedere più soldi alla famiglia della guardia giurata, solo per quello. E io non vorrei nemmeno un'unghia di quel delinquente lì. Bravo Parenzo, finalmente l'hai detta giusta, sparare al ladro e espropriare gli organi, così ripaga il suo debito alla società. Bravo Parenzo, giusto! Allora andiamo a Carmen, Roma. Ma vai, io non ho mai detto nulla di tutto questo. Ma che cosa dici? Non ho mai detto di sparare a un ladro. Carmen. Mai detto di sparare a un ladro e donare gli organi. Quella persona verrà denunziata al tribunale di Catania. Ti pigliava per il culo. Sì, ti pigliava per il procuratore culo. Perché di Catania indagasse su questo signore qui. Ma sì, esageri. Dai. Sì? Indaghi, ma sempre denuncia ogni giorno. Non è possibile. Dai. Io chiedo che il procuratore di Catania, anziché indagare su cose che lui non sa neanche lui, indaghi sulla zanzara. Qualcosa trova. Fidati. Qualcosa trova. Prove, non c'è bisogno neanche che mobiliti la polizia giudiziaria, perché basta che ascolti una puntata, ne basta una, anzi bastano 20 minuti di questa puntata e trova una quantità di reati che riempie un anno di lavoro della procura, te lo dico io. Allora Carmen sì. Vai Carmen Consoli. Senti una cosa, prima chiamavo che un signore e ha detto che le donne dopo i 60 anni, che hanno ormai lo che sa meno passa, non possono avere più lo che la secrezione, non è vero. Aspetta, Carmen, ti sento poco, scusa, ti sento male, signora Carmen. Mi senti adesso meglio? Sì, ma tu che sei su South American? Di dove sei? Sì, Argentina. Sei argentina. Allora, prima lei sa che questa è una radio economica prevalentemente. No, ma non è una radio economica, che cazzo dici? Non dire forza, dai. Non lo so io, magari. Allora, non ho capito, Carmen, tu vuoi contestare il fatto che il signore di prima diceva che le donne quando sono in menopausa non hanno più secrezione, no? Brava, e dunque, mamma mia. E lui era contento di questo. Vero. Tu quanti anni hai, Carmen? No, per carità, non è vero, quasi 50 anni, ma sono quasi 8 anni che non ho più quello che se le mestruazioni. Scusami, ma signora, ma perché si sente in dovere alle 19:37 di chiamare la radio autorevole del gruppo della Confindustria del Sole 24 Ore per parlarci della sua situazione post menopausa? Signora mia, lei capisce che è un po' strano, sì, almeno io. Di più una cosa, scusami. Sì. Scusami, Carmen, io non ho capito tante queste argentine, che cazzo gli frega? Scusa, Carmen, scusami un attimo. Posso scherzare, venire anche 7-8 volte in una sola notte, senza nessun problema. Sì, ma ho capito, però Carmen, tu quanti anni hai? È un dato che mette in fibrillazione le borse. Quanti anni 49 hai? Anni. 49 anni. E sei in menopausa, non, è difficile? Sì. Già in menopausa, no, da quanto tempo? Insomma, da quasi 8 anni e mezzo. E come ho mai? Che è successo? Problema. Che è successo? Ho avuto un problema, sì. Vabbè, d'accordo. Esatto. E dunque, non è vero quello che dice il signore prima, cioè che non c'è secrezione? Non è vero per niente, al contrario. Uguale o anche di più. Io penso che tu... Non è vero. Secondo la donna. Secondo la donna. Tu che hai detto che squirti, non ho capito? Posso schirtare, posso anche venire 7-8 volte in una serata senza nessun problema. Capito, Parenzo. Questo è, ma lei che mestiere fa? Il governo, signora Carmen, lei che mestiere fa? Io sono una casalinga. Ho una casalinga. Sai cosa pensa il ministro Calenda di tutta questa lei cosa? È sposata, ha una relazione, una storia? Sono sposata, sì. E tuo marito sarà felice, suo marito che ha telefonato lui per è condividere. Molto contento e molto bene. Felice e bene. Mi sta anche ascoltando. Allora siamo tutti felici del fatto che lei è alla radio economica del Sole 24 Ore. Ma non è la radio economica, no, ancora con questo la messaggio radio. Finto che dai, una radio di flusso, è vero, una radio ma di no, flusso. Ma che flusso? Qui quel flusso che però, c'è Carmen, è un altro, io non credo però... molto, non credo molto alla sua storia adesso. Secondo me questa qua è una telefonata un po' finta, secondo no, me. No. Ci puoi credere. E come faccio faccio a credere? Scusa. Lo so, non te lo posso far vedere. No, far vedere, non mandami un filmato. Passami il marito. No, non te lo posso fare. Beh, amica mia, se non mi vuoi passare, dov'è tuo marito? È romano lui. Ma dov'è? È qui. Passalo. È qui davanti a me. Non vuole parlare lui. Ma scusa, ma non ho capito. Allora, come faccio a crederti? Cioè, 393-71-71-701. Mandami un messaggio, uno WhatsApp, mandaci un WhatsApp e poi noi verificheremo. Perché noi possiamo credere così. Tu dici, io squirto come una matta. Ho 49 anni, sono in menopausa. Insisto. Come indaga? Senza nessun problema. Mamma mia, come indaga? Più della procura di Catania. Dice solo senza nessun problema. Sì, senza mamma nessun mia, problema. Come indaga, Cruciani? Più della procura di Catania. Cruciani meglio di Zucchero. Sì, sicuramente, su questo non c'è dubbio. Ciao Carmen, ciao. Un bacio, arrivederci ciao. Signora. Carminati colpisce ancora. Il giorno in cui, proprio nel giorno in cui chiedono 28 anni di galera, Carminati impazzito chiama tutta Italia. Non è così. Qui alle prese con la contessa De Blanc. Ma come abbiamo l'audio noi di questo? Che cazzo, arriva di tutto qua, guarda. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Eh? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Pronto, parla più forte perché non sento. Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Chi? Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Perché me lo devo segnare? Massimo Carminati, segnalo, così vai su internet e vedi chi sono io. No, scusa, tu mi hai chiamato con un numero nascosto. Che cosa mi segno? C'è scritto segnalo non il tuo nome, ascolta a me. Così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Io non ce l'ho internet e poi tu sei un cazzo che non mi segno proprio niente. Io sono quello che abita là. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, sentitelo sto nome. Ma a me non me ne frega proprio niente chi sei, ma che mi frega a me? Ascolta me, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Io non vado su internet perché internet non ce l'ho. Non mi frega niente di sapere che sei, che vuoi da me? Massimo Carminati, segnalo, così vai su internet e vedi chi sono io. No, non ci vado su internet perché non me ne frega niente di conoscerti. Che vuoi? Segnalo il tuo nome, ascolta me. Così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. No, io non vado su internet, non mi segno proprio niente. Voglio sapere che vuoi. Che vuoi? Se mi veni da fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? E vuoi? Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su Facebook, poi venga a cercare te. Ma con chi stai parlando? Ma con chi credi di parlare? Hai sbagliato numero, eh? Io sono quello che abita là. Dove? Hai sbagliato numero. Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su Facebook, poi venga a cercare te. Segnale il tuo nome, ascoltami, così vai su internet e sai chi cazzo sono io. Hai fumato? Massimo Carminati, segnalo, così vai su internet e vedi chi sono io. Sei fumato? Hai io sbagliato? Sono quello che abita là. Con chi credi di stare parlando? Scusa, con chi, a chi hai chiamato? Hai sbagliato numero. Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. A me non me ne fatto un cazzo di chi sei. Tu hai sbagliato numero, sai che? Chiama, stai parlando con un'altra persona che non è quella che vuoi chiamare tu. Segnalo il tuo nome, ascolta me. Così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. E dai, ma chi se ne frega? Chi ti conosce? Io non ti conosco, non voglio sapere chi sei, non me ne fotte un cazzo, hai sbagliato numero. Se me ne da l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo. Hai capito che hai sbagliato numero, stronzo? E bene questo nome, ascolta me, così vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Cosa pazzesca. Mamma mia. Non ce la faccio, ti giuro. Non ce la faccio. È bello che lei rispondeva, capito? Ragazzi, sto Carminati pure dal carcere riesce a fare riesce a fare delle telefonate incredibili. Dal carcere. Sì, me la voglio prendere così d'amblè, non so perché, con il sindaco di Bergamo, Gori, che pare che sia un sindaco molto bravo. Bravissimo. Addirittura i giornali di destra come Libero lo esaltano, cioè, per quello che vuole decidere a Bergamo. Però leggo proprio sul Libero un'intervista del signor Gori, e sono due già interviste al signor Gori in pochi giorni. Comunque, operazione decoro a Bergamo. Sì, ottimo, l'ho visto anch'io. Via dal centro paninoteca e sexy shop. Sì, bellissimo, c'è ridare. Ora, giusto, ha ragione. No, un sindaco, ma dimmi deve perché. Fare, ma dimmi perché. No, perché un sindaco è giusto che ma si dimmi occupi perché della, i sexy del, shop della propria città. E i fast food, fuori, e via, i fast via. Food via da Bergamo. Ma è una bella scelta perché, le città dovrebbero farlo tutte le città italiane. Ma che non hanno è un patrimonio vero. Storico, ma artistico. Basta con queste puttanate. Non si può trasformare, non si possono trasformare le nostre città in un a parte i sexy shop che c'è questa pruderia italiana, questa sorta di bigottismo italiano. Sono brutte le vetrine, le cose estetiche. Gusto, ma quella è un'altra cosa. Sapore. Ma perché i fast food fuori dai centri delle città, dai centri valorizzare storici? Valorizzare le vecchie botteghe, i vecchi ristoranti, i ristoranti chilometro zero, la grande chilometri tradizione. Ma ti sei impazzito, chilometri zero? Ma che sei diventato? La grande tradizione bergamasca. Ma che sei diventato? L'Italia è un vegano? Un vegano, no, chilometri zero? L'Italia è, non è solo vegano, è anche la carne. L'Italia è l'Italia dei comuni, amici cari. Quindi è quell'Italia che va a valorizzare, quindi ottimo Gori, va a valorizzare il tessuto, le caratteristiche del territorio. Non questa uniformità globalizzatrice che si impone anche nei nostri centri storici. Fa benissimo l'amico il sindaco Gori. È una bella scelta politica, molto male, molto male, molto bigottismo fuori sexy shop. Ma quale bigottismo? C'è nessun bigottismo. Lui è tutto tranne che bigotto. Appunto, ma quale bigottismo? Uomo di mondo, diciamo così. È una bella scelta, non lo so io, ma è una bella scelta, una scelta. Fermi tutti. Ah, chiudiamo? No, che chiudiamo? Chi possiamo chiamare secondo te per parlare di una relazione fra un uomo di dunque, 39 anni e una donna di 64. Dunque, guarda, escludo posso essere il professor Dalimonte che ho incontrato ieri alla Luiss. Professor Dalimonte è grande esperto di legge elettorale. Di sistemi elettorali. Quindi escludo che tu poi possa... avrà una moglie coetanea, immagino. Sì, no? Non lo so. Quindi escludo Dalimonte. Non è nemmeno Bagatta, perché Bagatta è il contrario, cioè un uomo più grande. L'ottimo Bagatta. Lori sì. Del Santo! Ciao Lori! Ciao! Come andiamo, salve, cara Lori? Quanti anni ci sono di differenza tra te e il tuo fidanzato, che non mi ricordo mai come si chiama? Ma lui è 25, io non so la differenza. Ah, tu hai 58-59, quelli che sono, dunque quasi 60, scusami se lo dico, però in questo caso bisogna dirlo, sono 25-58. 33. Beh, amica mia, superi assolutamente. Sei Macron. Oltre Macron. Sei oltre Macron. Sì. Però spero oltre. E sono sicuro che tu in qualche modo apprezzi questa relazione. Non sei come Adinolfi. Sì. No, io l'adoro. Ma che Adinolfi? Questo non ha capito niente. Questa è la vera relazione del potere, quella che può veramente raggiungere il potere. Perché altrimenti i figli ti distraggono quando sono piccoli. Questi invece sono concentrati per arrivare al loro obiettivo. Questo fantastico. È molto buono. È un grande ragionamento questo qua. Cioè, sì. Sta dicendo, signora Lori del Santo, Parenzo, stai attento, sì. Perché non è che sia una cretina, signora del Santo. Non ho mai detto una cosa simile. No, tu dici che è una cretina, me l'hai detto. Me l'hai detto nell'intervallo di questa trasmissione. È una persona che ha. Ma signora del Santo, le assicuro che io non mi ho mai. Detto, ma chi chiamiamo stasera? Quella è cretina, è un imbecille. Me l'hai detto tu. Ma guarda che è incredibile. Giuro che non ho mai detto una cosa simile. Perché vedevo tutti i film della signora del Santo. Mi sta molto simpatica. La guardavo al drive-in tutta fin da fanciullo. Ma che c'entra drive-in? Diciamo sottovalutata, sì. No, però scusami un attimo. Adesso poi apprezzavo, poi ve la vedrete in tribunale su questa cosa qua che mai detto. Ma non ho mai detto nulla. Ma che stai scherzando? Anzi, mi allora, apprezzo Santo, molto. Ha detto una cosa interessante, signora del Santo. Ha detto era che uno dei miei sogni da Macron ragazzino. Macron fa bene perché tu. Non ha l'impiccio dei figli, giusto? Questo è. Esatto, lui deve raggiungere il potere. Lei i figli li ha già fatti, i nipoti pure, tranquilla. Ma anche lei cosa gli rimane nella vita? Raggiungere il potere. Il potere insieme, loro due sono perfetti. Cosa sono perfetti per il potere, dici? Per il potere. Certo, lei è in forma, vedi che è magrissima, diventa attillata, si fa le mesh, è giusta, una bella donna. Bella figa, io direi, una bella signora. Sì, una bella donna, una bella signora donna. Fa un po' strano. Fa un po' agedis. E poi lei sorride, insomma, e poi lei adesso ha l'obiettivo del potere. Piangere. È giusto sorridere perché fa comprensione, fa bontà. Signora Adinolfi ci ha detto che in realtà è una cosa innaturale perché non possono fare figli. Ma che stupidaggine! Ma scusi, i figli le fanno le donne, vedi che lei c'ha già 3 figli, 7 nipoti. E lui che bisogna di figli adesso, per cosa? Per tramandare per cosa? Lui già si appoggia su un grande affetto, tutta la famiglia. Sì. Gli sta vicino, è un patriarca di già essendo sposato. Ma cos'è questa storia che un uomo deve signora Adinolfi, lei conosce signora Adinolfi? Avere i figli. Lei conosce poi, sì, no, l'ho letto cosa ha scritto e non sono d'accordo. Signora Adinolfi, quel tizio un po'. Sì, lo so, ho visto, ma guarda la faccia che ha, cioè è in che ovvio senso? Che guarda lui la faccia che è patriarcale, uno che vuole insinuare che l'uomo ha il potere di dare il cognome ai figli e deve tramandare la sua specie, cioè questa roba di questo è assurdo. Cioè dice che dietro questa roba qui di uno che sta con una di 25 anni più grande si cela qualcos'altro, cela un mistero, magari l'omosessualità. Sì, ho capito, ma anche metti adesso non credo, ma metti che fosse. Chi ma se ne frega? Chi se ne frega? Perché lui ha bisogno di una donna che lo assista, che gli stia vicino, che lo consigli, che sia una sua complice vera. E lei è perfetta. Cosa c'entra questa roba? Il problema non è con chi si fa sesso, è con chi si condivide una giornata, è una nottata, comunque una sono vita, due una casa. Sono due cose diverse, dici, il con chi si fa sesso. Il sesso dura un secondo e finisce. Invece il vivere tutti insieme, tutti i giorni, condividere, quello è il duro di una relazione. Se loro riescono da 10 anni ad andare in giro spavaldamente e fare le foto mano nella mano, è fantastico. Scusami Lori, ma tu sei mai stata con un minorenne? Ma diciamo stata proprio no, però sì, dimmi la verità, ti sei baciata. Linguazzo sì. La lingua in bocca con un minorenne addirittura. Ma diciamo questi ti perseguitano i minorenni, Io cioè non hanno frontiere, non hanno muri, questi sono proprio determinati, una rotta, cioè non puoi non cedere a volte, perché questi ti massacrano. Cioè tu dici ti hanno talmente rotti i coglioni questi minorenni che aveva 16 assediata. Anni, 17, tu quanti ne avevi, scusa? No, io molti di più, verso i 30, ma questi di addirittura 14. Cioè ti sei slinguata con un 14enne tu una volta? No, ma questi ti assalgono. Uno può anche ti assalgono, sembra un'immagine, ma che roba è è una specie di, capito, stalking. Questi vogliono la donna più grande, non c'è niente da fare. Ho capito, ma uno non è che deve cedere per forza, tu hai fatto la lingua in bocca. Del desiderio. Ho capito, hai fatto la lingua in bocca tu. Ma sai, comunque piace questo odore un po' giovinastro, questo odore strano. A te piace? che non è di Cologna, di profumo già tutto pianificato. Cioè, del santo. Sì, ah. Sì, sì. No, a te, cioè, ripeto, a te piace, cioè, sì. Questo, una delle cose che ti attrae delle persone più piccole, più giovani, dici, è il fatto che hanno un odore vero, no? Che hanno un odore. Sì, non è già quell'uomo impostato che si mette il profumo perché la camicia, perché se, ha già tutto impostato, no? Perché sì, sì. La moglie comunque tradisce, ma non deve far vedere, certo. Rifà il letto, ma è solo perché così lei. Per cui tu, l'uomo più piccolo che hai avuto, quanto ha avuto? 16 anni? 14? No, io ho 14. Avuto questa cosa, ma questo qui, ma io non ho fatto niente. In realtà, questo ci provava. Io e tu alla fine gli hai dato la lingua in bocca? Lingua in bocca? Non mi ricordo questo dettaglio, però sicuramente. Ma l'hai detto prima, lingua, abbiamo slinguazzato, hai detto slinguazzato. Diciamo che mi si è buttato, ma io dico, è comprensibile che i giovani siano attratti dalle persone più anziane. Beh, più ma anche tu sei attratto dalle persone più giovani, però. Ma adesso ovviamente c'è uno scambio, no, di ruoli. È chiaro che ad un certo punto la donna è già intelligente di suo, ha già tutto, c'ha i soldi, c'ha la potere, c'ha la posizione, ma perché deve andare con uno sfasciato che magari è un ferito? Cioè tu dici, quello serve, tu dici. Riflessione. Deve andare con un oggetto del desiderio, è ovvio. Ma scusa, ma sei mai detto, però che il tuo fidanzato è lui che ti assila sessualmente, a te non te ne frega niente? Sì, sì. No, io perché sono stanca, perché tutto sommato devo anche mantenere una baracca, devo anche lavorare, però lui mi sposerebbe domani mattina. Lui ti sposerebbe domani mattina? Non sono problemi. E tu no, invece, no? No, io lo sposare è una catena, capito? È come le manette. Per carità, assolutamente. Che poi devi spiegare se vai a, cioè troppe spiegazioni, un casino. Cioè, la libertà è bello stare insieme perché non ci sono legami. Quando il legame è troppo forte diventa una costrizione e allora cominciano le crisi. Comunque, Parenzo, perché dici che è un imbecille la parola? Tu l'hai detto più volte, sta dicendo delle cose anche di una certa rilevanza. Prima di questa trasmissione mi hai detto è una cretina, è un imbecille. Perché la chiamiamo? Ma dov'è quel procuratore? Ma dov'è il procuratore capo di Catania? Voglio dire, perché non si scusa, lei ha mai frequentato il dottor Sgarbi? È andato mai a letto col dottor con Sgarbone? No, no, mai. Quello lì no. Quello come lì. Mai? Come mai? Ma perché ci sono personaggi che è meglio evitare, nel senso che se no sono complicazioni. Cioè, Sgarbi è una complicazione, dici? Sì, bisogna anche cercare di andare al sodo, non di solo parole. Beh, andare al sodo, ma non ho capito, tu, il tuo fidanzato, cosa vorrebbe da te questo giovane fidanzato di 33 vuole anni? Vuole stare bene, vuole vivere serenamente, senza dover pensare a costruire per forza, a lavorare 20 ore al giorno. Insomma, vuole stare bene in un mondo eccitante, perché in fondo il mio è un mondo eccitante, no? Sì, la televisione, mondo, cioè, giornali, mi scrivono una vera comunque, filosofa, una vera io filosofa. Posso dire che sono una donna, a parte lui, sì, che sì. Voglio dire. Non ho mezzo sfigato, ce lo stai dipingendo come mezzo sfigato, scusami. Se lui non ci fosse, sì, per te sarebbe uguale. Se lui non ci fosse, sto per imbarcarmi per Milano. Meno male, meno male. Voglio dire, se lui non ci fosse, io avrei già una lista infinita fuori dalla porta. Hai capito, lista d'attesa, come per imbarcarsi. Quindi ritengo lui, perché lui soddisfa le mie esigenze. Di che tipo? Certo. Che tipo di esigenze, scusa? Tutte, come tipo mi aspetta, sessualmente quando desidero, in ogni momento è pronto. È fantastico, è dolce, è gentile. È un oggetto. Mi vuole bene. No, è una persona amorevole. È quelle persone che ti vogliono bene, affettuosamente, calorosamente. Ma la lista è lunga, però devo dire la verità. Io, per esempio, mi fidanzerei con la signora del Santo. Se non ci fosse, se si lasciasse così, io sono una donna che crea dei problemi mentali quando provi, non riesci più a lasciarmi. Questo è probabile. Questo è probabile che lei crei dei problemi mentali. È probabile. Perché io sono una mentale, sono un'intersificazione, capito? Che ti crea degli spasmi. Signora del Santo, adesso si sta per imbarcare, ma lei intanto ha imparato nel frattempo che cos'è lo squirting dall'ultima volta? Ah, sì, quella volta. Io seguo tutto, la vostra trasmissione è edificante. Bene, edificante. Edificante è molto buono. Ma vedi che è intelligente, lo vedi che è intelligente. Per carità, lo vedi che è intelligente. Nessuno sostiene il contrario. Scusi, lei adora il sesso anale oppure non lo pratica? Ecco le grandi domande anale. Alla report. Anale. Diciamo che è troppo forte per me. È troppo forte. Rilassata, non ho voglia di sudare cose. Beh, dopo questo direi, no? Che possiamo andare ai mercati, alla borsa. Rilassata lei, vabbè. Cioè lei dice una cosa troppo è troppo forte per me. Troppo forte, ci vuole tempo, bisogna preparazioni, altrimenti è scioccante. E a volte non c'è tempo, è meglio fare altro. Può chiedere l'intorno mentre si imbarca se sanno che cos'è lo squirting. Faccio una piccola orchestra. No, ma qui sono a Roma, all'Italia, Fiumicino. Sì. Si sente benissimo, meglio di Parenzo quando è a Siena, chissà perché. Sono disperati, l'Italia fallirà, l'Italia. Ah, ecco, dica, scusi, vada là, che state per fallire, si mette a ridere, vediamo che succede con i funzionari dell'Italia. Sì, così non la fanno imbarcare più, per fortuna. No, perché loro dicono no, ma mi dà fastidio che la mia azienda sia su tutti i giornali, la sua azienda. Questi la sentono di proprietà, capisci chi lavora qua? No, amica, oggi una hostess, sì, da qualche parte ha raccontato che negli anni dove sono iniziati tutti i guai, negli anni 60, negli anni 70, questi andavano negli hotel a 5 stelle, per carità, poi sono i manager i responsabili, non sono i dipendenti, perché i dipendenti li hanno fatti vivere bene, ma sono sempre gli altri che hanno dato la possibilità a questi di andare oltre quello che potevano ma negli anni 60 questi vivevano come re, come... Ma sì, guarda, ma hai visto poi le divise che hanno ora? Ma scusa, io adesso sono arrivata qua, un lusso sfrenato questa l'Italia. Hanno cambiato cambiato tutti. Ma che si vede dalle divise. I cosi, era meglio quando parlava del resto, delle altre cose. Era più però scusa, tu stai sempre dicendo che è cretina, stai sempre dicendo che è stupida. Finiscila. Comunque, hai imparato che cos'è lo squirt alla fine. Ma voglio dire, è strano fallire quando tutto luccica. Qui luccica tutto. L'Italia sembra di stare a Dubai. Fallisce. Com'è possibile questa cosa insieme? Com'è possibile? Adesso magari lo chiediamo a qualche economista, giriamo la domanda. Comunque io vi seguo perché voglio sapere tutti questi termini sessuali che possono aiutare la convivenza. Brava, adesso d'accordo. Lei si faccia aiutare dal suo fidanzato, magari questo è interessante, a squirtare. Non è molto difficile. Non è, guardi, che è una cosa molto praticata. Sì. Cioè, è una cosa che ha un suo... Abbiamo inaugurato noi un filone che riguarda lo squirting e devo dire che ha un discreto successo. Nessuno questo filone. Toglie questo filone, non ti preoccupare. Siete dei viver. Ciao Lori, a presto. Arrivederci signora. Signora del Santo, sa che cos'è lo squirting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Bruciare, dimmi cos'è Spring. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. La Zanzara. Il mese scorso in Germania per un convegno. Conosco sta ragazza australiana di 24 anni, flirtiamo, finiamo in camera, ci spogliamo e comincio a leccargliela. A un certo punto mi fa: aspetta, ti faccio vedere una cosa. Io già dalle sue parole avevo immaginato cosa volesse mostrarmi, ma sai, finché non vedo non credo. Va in bagno, prende un asciugamano, si sdraia sul letto e si mette l'asciugamano sotto al culo. I miei occhi si illuminano quando la mia domanda se lei avesse il dono dello squirting mi risponde di sì. Riprendo le cagliala e dopo un po' mi squirta in faccia. Ero in estasi, non ci ho capito più un cazzo. Durante l'amplesso mi squirta altre 3 o 4 volte addosso e alla fine, quando eravamo entrambi sfiniti ma soprattutto soddisfatti e felici di quanto era appena accaduto, la guardo dritto negli occhi e le dico in italiano: siamo al top. Allora, caro Davide, ieri sera... Dottore, è uscito durante l'acconto, è andato a mangiare grande il voltino primavera. Grande sentito, racconto di vita dottore, reale, di vita dottore, vissuta, di vita vissuta. Polchelie, ladiofoniche, polchelie. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Dottore, allora, si domanda perché Bloculatore di Catania non chiude trasmissione. Bloculatore di Catania, cucù. Chiude, le chiede, dottore, trasmissione Zanzala. Polchelie, Squilting, Polchelie, Lolli del Santo. Tutte polchelie, chiude le trasmissione. No ONG Migranti, chiude le Zanzala. Bloculatore, Bloculatore Catania. Fanno del aprile bene. Fascicolone. No polizia giudiziale, non c'è bisogno di grande inchiesta. Glande, glande vuol dire glande, non quell'altra cosa sporca che pensa Cruciani, ma glande nel senso di enorme inchiesta, glande inchiesta su Polchelie Zanzala, glande fascicolo. Ma lo sai che c'è un cinese che mi ha mandato un WhatsApp? Un cinese dalla Cina, uno parla benissimo italiano, perché c'era il numero cinese lì. Senti. Ciao, sono Enrico, mi piace moltissimo la Zanzara e buon lavoro, siamo in top. Allora ragazzi, le Iene ieri sera, Cerveteri vicino Roma, la sì. DIA sequestra 30 milioni, indovina chi, caro Parenzo? Per carità, non vogliamo dire che i Rom, ecco, i Sinti sono la rovina dell'Italia, non diciamo che il debito pubblico, che i problemi dell'Italia, bravo, che i problemi del paese dipendono, bravo, dai Rom. Eccolo dalla vostra parte, amico mio, come mai se uno entra in un campo Rom, se uno solo comincia a fare un'indagine all'interno di una comunità Rom qualsiasi, si scoprono dai 100 ai 500 reati. Spiegamelo perché, dammi tu una spiegazione, come mai? Tu dirai perché non sono integrati, no, perché non ci io. Sono i mediatori culturali, sono... anche per quello certamente c'è bisogno di investire molto nell'integrazione. Vuoi che te lo dico perché? Perché in fondo a queste persone qua piace rubare. Cioè, questi qua godono nel rubare. Ma è normale, i ladri godono nel rubare. Ci sono dei criminali che io conosco che non farebbero altro che i criminali, perché godono nel fatto di rubare. Hanno anche una loro tecnica sopraffina. In questo caso però li hanno inchiappettati, pare la DIA. Sequestrato, ecco, 30 milioni. Bene, questo bene. Gruppo di Sinti sono specializzati in furto di casseforti. Qui moriamo di fame, moriamo veramente di fame. Chi muore di fame sta sotto i ponti, non sta nelle case con l'estate, uno. Due, chi lavora onestamente le paga le tasse. Figlio. Questi lavorano, questa è mia nuora, quello è mio figlio. Gli hanno detto tutte queste cose. Allora uno che va a rubare fa bene. A questo punto, uno che va a rubare fa bene. Ma tu ti rendi conto? Questi qua stanno in ville faraoniche. Non si tratta di campi Rom. Prima ho fatto un esempio, il campo Rom. Se uno va a indagare in un campo Rom, in una comunità, questa è una comunità che ha delle case pazzesche, delle case faraoniche. E hanno pure il coraggio di dire, hanno pure il coraggio di dire quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo sentito. Moriamo di fame. L'operazione è giustissima. Chi ruba, ci mancherebbe tutto, pure. Ci mancherebbe altro. Moriamo di fame. Chi ruba fa bene. Questi Sinti, ma per carità. Siete anche esperti di furti in casa. Sono andato a rubare per pagare gli operai che avevano fatto il debito per la casa. Secondo te è normale? Vado a rubare per farmi la casa. No, non sono andato a rubare per farmi la casa. Per pagare gli operai? No, sono andato a rubare per... Ma qua rubano tutti, stanno a guardare quello che rubano se non paghi le tasse. E io che pago le tasse sono a scena. Vengo, vedo sto villone, no? E poi vedo che te c'hai 29 anni. Non hai mai dichiarato un euro. Non si capisce da dove vengono sti soldi. Dimmi tu io che devo pensare. E che ne so, è ricco. È un questo. Figo, è ricco. E vediamo allora come vivono i ricchi a Cerveteri. Tutte le ville hanno le palme della vostra famiglia. Abbellimento. Abbellimento? A chi ti sei ispirato come stile? L'ho fatta io questa. L'hai fatta tu, l'hai disegnata tu. Quindi sei un architetto. E questo? È lo stemma, una corona. Una corona. È lo stemma del Rolex. È imponente entrare qua e vedere le due colonne di marmo. C'è pure la piscina, c'è il campo di calcio, c'è. Cioè, oh. Non è che qua ci vuole tanto per mettere un po' d'erbetta? Sai quando ci vuole fare una casa così? Con 50.000 euro te la finisci una casa così abusiva. Quindi se tu dovessi convincere chi guarda tutto questo a crederti, cosa gli diresti? Ah, dimmi come si fa. Te l'ho detto, non paga le tasse e ti fa la casa. Sì, però ragazzi, io mi domando, sono dei ladri, dai, sì, ovvio, ma io mi domando una cosa, no? Io sono mi domando ladri, una cosa. Ladri, e vanno abbattute quelle villette, ovviamente. Appunto, io dico una cosa, ragazzi, uno che fa lo stemma del Rolex all'ingresso della casa. Cioè, non è che il nascondono il cattivo gusto. No, ma lascia perdere, ovunque. Io non parlo di cattivo gusto, lo stemma del Rolex all'ingresso della casa, all'ingresso del villone. Dicono davanti a una telecamera che loro rubano evadono le tasse. Ma cosa si aspetta per intervenire ieri? Sicuramente. Ieri sera, stamattina, certo. Circondare con l'esercito, amici sono miei. Sono criminali. Abbattere questi. Tutto, radere certo. Al suolo tutto. Ma questo è giusto, bravo. Mi rompo fuori, naturalmente. Radere al suolo tutto immediatamente, dopo un secondo. Robson, sì, sono dei criminali. No, perché e basta. Il problema è che, come nel caso della masseria di Lecce, che era un'altra questione. No, quella è un'altra storia. È un'altra storia, però, come nel caso di quella masseria là. La legge non lo consente, non si può fare domani mattina. Questo meraviglioso servizio ci ha dimostrato due cose. Uno, c'è un'illegalità non solo diffusa, ma lampante, chiara, sì, manifesta, d'accordo. Questi Verissimo. Lo dicono, chiaramente lo dicono davanti alle telecamere, lo dicono anche a noi spesso che rubano. Seconda cosa. Dicono che evadono le tasse, cioè come fai a farti sta casa? Evadendo le tasse. Amico mio, ma che cosa ci vuole di più? C'è per un procuratore capo a Catania che anziché fare indagini dove ancora ci dice che non sa niente, può aprire facilissimamente. Ma tu dici le iene meglio, le iene meglio del procuratore di Catania, dici. Adesso almeno... tu mi vuoi far mandare un no, mandato di cattura internazionale alla procura di Catania. Le iene meglio del procuratore di Catania. Sicuramente le iene hanno dimostrato in questa inchiesta che hanno trovano notizie indizi. Di reato certi di fino ad oggi più dell'amico procuratore di Catania Sergio da Torino, vai Sergio. Adesso che mi hai fatto arrestare siamo a posto. Sergio Torino, vai. Pronto, aspetta che devo mettere. Si faccia con calma, tanto no, ha ragione che sta aspettando da un po', Sì, prego, faccia con grande calma, così mi riposo un po' che sono no, stanco. No, no, ma qui ci vuole ritmo, altro un mal che di riposo, testa. Sei no, pazzo. Un mal di testa. E vabbè, pazienza, io vivo di mal di testa. Dimmi Sergio, dimmi. Devo spegnere la prima voce, Si spenga tutto, chiuda tutto. Dai, Filippo da Roma, così. Dai. Meglio ancora, dai. Filippo da chiuda Roma. Tutto, arrivederci. Che grazie. Non è Filippo Roma quello. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi Filippo, dimmi. Ciao caro. Ciao, buonasera. Senti, io volevo ritornare sulla questione di Macron. Sì, per dire perché cosa? Perché trovo assolutamente ingiusta ingiusto l'accanimento che c'è stato contro Macron. Ma non c'è pro Macron, non ho capito. L'accanimento di che tipo? Beh, del fatto che comunque sta con una compagna molto più anziana, perché nessuno ci ha capito niente. Nessuno ha mai googolato Tiffaine Osier, che sì, è la figlia di Brigitte. Che ha più o meno la stessa età di Macron, più o meno, la stessa età del nuovo padre, esatto. Diciamo, del padre acquisito. Esatto. Sì. Io sosterrò Macron perché Macron diventerà il primo presidente esponente della legge della maniglia. Prima la mamma e poi la figlia. Beh, amico mio, questa è buona come cosa. Devo dire che oggi un quotidiano britannico dice, cercando di far capire che forse qualcosa c'è stato, che la figlia della signora Brigitte, che come dici tu ha più o meno la stessa età, dice addirittura che sono stati in classe insieme, non so se sia vero o no. In classe insieme non credo. Quando la madre ha conosciuto, era la professoressa, ha conosciuto lo stesso alla stessa Macron. Età, diciamo, Macron. Però della Filippo, figlia, tu sì. Diciamo, per completare l'opera, non vedi l'ora che avvenga questo. Cioè che, voglio che avvenga questo. Cioè, che lui lasci la mamma, la nonna, per mettersi con la figlia, cioè con la coetanea. Da presidente, per poi lanciare alla zanzara un nuovo tema, cioè gente che è andata sia con la mamma che con la figlia. Cioè tu dici tutto questo pro zanzara, dici tu. Assolutamente sì, assolutamente sì. Zanzaro centrica. Bravo, bravo, molto bene, ciao. Molto bene, Luca grazie. Dalla provincia di Bologna, vai. Vai. Grazie. Dimmi Luca, dimmi. Oh. Ciao Cruciani. Ascolta, allora volevo raccontare la mia esperienza. No, è Luca da Perugia questo qua, dai, Luca da Perugia. Luca da Figi. Ascolta, andavamo a scuola all'alberghiero e non sapevamo che fa, mentre uno che va a scuola nelle città, va in giro per le città, piancia non c'è un cazzo. La mattina ho letto un giornale, c'era l'annuncio della puttana. Tu avevi, quanti anni avevi, Luca? Era 2002-2003, quindi sui 15-16 anni. Sì, sì. E infatti a sorte, fortunatamente, è toccata a me. Sì, in che senso è stata a sorte? Non ho capito. Non ho capito che c'entra estratto a sorte, scusami Luca. Eravamo un 5-6, chi ce va, ce la siete giocata a carte, la puttana e mi è toccata a me. Ma che vuol dire ve la siete giocata a carte? Non ho capito. Cioè, vabbè, comunque avete fatto l'estrazione a carte, ma avete fatto una colletta, ce li avevi i soldi o non ce li avevi? Non mi bastava, ne avevamo puntato soldi e sono andato là con 50, e alla fine mi sono avanzati anche 10 euro. Vabbè, allora quanti anni aveva questa qua? Quanti anni aveva? Ecco, è questo il problema. Mi immaginavo una bella biondona. Entro, era una signora sui 55 anni, distinta, perché a Chianciano, mentre le donne tedesche andavano a farsi curare il fegato, i maschi dicono a puttane, so, 6.000 persone, 4.000 saranno puttane, capito? Ma chi t'ha che detto bello spaccato sociologico. Professor De Masi detto? Non avrebbe saputo fare di meglio. Ma di chi te l'ha detto che a Chianciano funziona così? Ma quanto no, no, io conosco, persone che ora hanno 50-60 anni che facevano i camerieri negli hotel, ma alzavano più coi soldi delle tedesche la notte. Addirittura? Sì, no, no, ma Chianciano negli anni 70 soprattutto era questo. Ora ormai il turismo termale è finito, ma Chianciano c'era una doppia vita, vi potrà chiamare qualcuno. Vabbè, ma chi se ne frega, noi vogliamo parlare di oggi, non in poche parole, no, oggi ci sono rimasti un po' di puttane. Ma scusa, tu oggi quanti anni hai, Luca? Ma ti pare ne ho 28. Hai 28, dunque è successo 13 anni fa questa roba. Sì, facevo il primo superiore. Era primo il primo superiore. Anno del vabbè, primo sei super... andato con una puttana 55 insomma, anni. Ma niente, ero contento per una volta che vinco a carte, addirittura invece che vince in pacchetto. E invece sei capitato male, sei capitato puttana, entro e c'era sta donnina dei 55 anni. Ma è stato e n'era messa manco male, però ma purtroppo capirei a 16 anni se ritrovi davanti una donna dei 55 anni. Beh certo, un po' sei impressionato. Te posso dire una cosa, lei la prese molto, non si fece problemi. Beh, te credo, fa la puttana. Non è che fa... Vabbè, però, lo so, però quando c'hai 55 anni, se trovi davanti il ragazzino di 15 anni... Ti può piacere, dici, no? Uno per principio potrebbe anche dire, no, cavolo, sei minorenne. Però tutto non qua. Vorrei smontarla, amico mio, ma la sua bellezza, per carità. La signora fa appunto la prostituta, non è editorialista delle Nouvelle Observateur. Cioè, che dire... ti ha visto e ha detto che bel ragazzetto questo qua. No, ho capito. No, Farenzo, però una puttana c'ha dei principi come sì, ha ragione, però anche Luca ha ragione, anche la puttana, guarda, Lucia, per esempio, se tu ti presenti Lucia da Pordenone, con te non ci va. Ma quella quella fa manda i razzi in cielo, fa i petardi, perché non ce l'ha mai nessuno da quella. Ancora a parlare questa quando non ha mai esercitato in vita sua. Quando era giovane era un cesso a pedali. Ora è peggio ancora. Questa si vedeva che negli anni passati le va soddisfatti tanti perché era un appartamentino deluxe, un bel appartamentino, insomma niente, io monto lì, lei mi monta sopra. Vabbè, adesso non importa. Sarà contenta la tua fidanzata, ma perché perché non venivo, ma lei capiva che io mica venivo perché c'ho delle dote, venivo perché mi sembrava strano vedere una che poteva essere la mia nonna sopra di me, capito? Ciao Luca, ciao, fermi tutti, ciao Luca, ciao. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo. Ciao. La Zanzara. Scusami Parenzo, mi stai sulle palle. Sei anche un ebreo. No! Sei Asmodeo, sei. Caro David, una cosa seria va detta, sì. Non che le altre cose non siano serie, no, perché il sesso è una cosa serissima, assolutamente, e Carminati è una cosa molto seria, le telefonate che fa, oggi è stata richiesta una condanna a 28 anni, 26 per Buzzi, e c'è la questione del procuratore di Catania di cui abbiamo parlato. Allora, c'è una cosa che voglio dirvi a proposito dei centurioni di Roma, no? Sì, il TAR oggi ha salvato i centurioni e il risciò, no? Sì. Io voglio ricordare una cosa che ha detto Virginia Raggi nel tempo fa, credo oggi l'abbia detto, oggi è 27, sì oggi ha detto, la città non può essere ostaggio di centurioni e risciò, cambiamento va avanti, nuovo regolamento decoro per tutelare la città. Ora, non è che il decoro della città dipende di Roma dalla presenza dei centurioni, anche i centurioni vanno benissimo, purché non diventi una lobby, una specie di gruppo dove le persone non possono entrare, esatto. Che si faccia una cosa chiara, purché paghino le tasse, eccetera, eccetera, eccetera. I centurioni mi fanno impazzire. Ma chi cazzo si... No, a me divertono anche moltissimo. Chi cazzo ci va a fare le foto con i centurioni? Chi va a fare la foto col centurione? Chiunque. Posso dire che è un coglione che si va a fare la foto col centurione? È un genio il centurione. Ma è un finto centurione. Sono tutti rumeni poi, peraltro, i centurioni. Ma non lo so, ma chi cazzo ci va a fare le foto? Ma a te sembra normale? Se tu vai a Parigi sotto la Torre Eiffel, non è che ti fai la foto con i con quelli vestiti da giacobini, girondini o con quello con la ghigliottina in mano, no? Cioè, mi sembra, non è che vai a Londra. A Londra, se mai ti farai la foto con le guardie vere, quelle della regina, ma non è che è una roba solo italiana questa qua, che tu vai in un posto e trovi quelli mascherati. Dai, ma che roba è? Gli antichi rumeni, mi suggerisce qualcuno. Gli antichi rumeni, esatto. Bagatta, sì, un ottimo Bagatta, che ha la mente fresca perché frequenta questa giovincella, quindi ha ancora la mente fresca. L'ottimo Bagatta, piace molto Bagatta, bravo. Ragazzi, a proposito della prostata, è importante questa cosa qua. Dicono che il caffè fa bene alla prostata. Io ne prendo 5 al giorno, figurati. Non lo so, ho letto, sai, queste, ogni tanto escono queste inchieste, no? L'inchiesta dell'università Fracazzo da Velletri. La prostata, fate attenzione, il cancro alla prostata può essere evitato grazie al caffè. Bah, la caffeina. Io so solo una cosa, amico mio, quello che diceva Grillo, fondamentale. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì! O se no, fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese. Io sono a 18, quindi 21. Cancro alla prostata, 3 o più tazzine di caffè non decaffeinato al giorno riducono il rischio del 50%. Mora, ragazzi, ma vi può sembrare seria una cosa del genere? Io non so da quale studio venga, se viene pubblicato, ma ti pare no, 3 o più tazzine di caffè non decaffeinato al giorno riducono il rischio del 50%? Ma che cazzo dite? Ma no, cioè, è meglio Grillo a questo punto, no? La cosa di Grillo, siccome l'allenamento del cazzo, sì, quello... è normale, no? Allora, a questo punto tutti fermi, perché questo è molto importante, caro David. Vogliamo chiamare una persona, sì? Ti ho già avvertito di questa cosa qua. Questo tizio qua si chiama Andrea Giotti, ha 48 anni, è un insegnante di matematica. D'accordo. Pare laureato anche in ingegneria, sì? E sarebbe diventato da 5-6 anni, sì? Vittima di un controllo mentale a distanza. Scusami? Di un controllo mentale a distanza. Scusa, non ti seguo, spiegami bene. Allora, questo qua dice di avere la mente controllata dall'Agenzia, sì, di Sicurezza Nazionale Americana. E circola liberamente? Cioè, no, sì, una persona che risponde qua, al telefono liberamente? Attraverso l'utilizzo di una sofisticata e segreta tecnologia, qualcuno riesce a collegarsi col suo sistema nervoso. D'accordo. Per influenzarne il comportamento. Questo qua fa il professore di matematica a Pistoia. Cioè, non ma è un pazzo in circolazione. In alcuni orari prestabiliti, perché è in libera uscita dall'ospedale o... No, assolutamente. Ah, d'accordo. Pronto? Sì, parlo con Andrea Giotti? Sì, chi è? Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Buonasera, mi dica. Come sta Giotti? Come tutti i giorni. Come cioè bene o male? Non particolarmente bene. Perché non sta bene innanzitutto? Mi sto preoccupando. Questo mi spiace. La spiegazione in breve, sì? È l'esistenza. Sì. Di una rete. Come? In orbita basso di satelliti. Sì, rete di interferiscono i satelliti. Sì. Di proprietà dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale Americana. Sì. Che interferiscono col sistema nervoso delle persone attraverso flussi di particelle fuori del modello standard. Sì. Probabilmente maioroni. Sparati da cannoni orbitali sul sistema nervoso della vittima predestinata. Probabilmente, scusi Giotti, lei ha detto probabilmente? Maioroni. Che vuol dire maioroni? È una particella ipotetica, cioè fuori del modello standard delle particelle, sì, riconosciute dalla fisica, sì, che gli americani hanno verosimilmente imparato a produrre. E lei cosa c'entra in tutto questo? Segreta. Mettiamo che sia così. C'entra perché io sono un testimone chiave all'interno di un intrigo che vede sullo sfondo l'uso di questi satelliti sulla popolazione italiana. Addirittura. In maniera arbitraria, sì. E più che arbitraria, sì, direi. Direi in maniera sì, omicidiaria. Ma che ci fanno? Mi fate capire un attimo. Aspetta, che ci fanno con questi? State parlando? Con questi satelliti, che cosa fanno gli americani? Che ne so, sì, magari anche gli israeliani o no? Sì, certo. Anche gli israeliani, in effetti, ecco, perché in effetti, il controllo dei satelliti è distribuito, sì, in vari punti del globo per ragioni tecniche. Ma che serve? A che serve? A determinare la politica internazionale, signore. Sì. Serve, cioè, a determinare la politica internazionale surrettizia. Ma a controllare la mente? Cavalcando le istituzioni democratiche. Concretamente, che cosa controllano con questi satelliti? Cioè, è un controllo mentale? Sì, si tratta di, sì, interferenze sul sistema nervoso delle persone, sì, messaggi subliminali, sì, e cose, sì, di questo genere. Scusi, e queste vuole sentire un messaggio subliminale che le mando io? No, aspetta. Le interferenze a cosa servono? Le interferenze. Questa è l'interferenza, esattamente. A cosa servono queste interferenze mentali? A farsi mandare. Aspetta. Vabbè, aspetta. Servono, l'ho spiegato un attimo fa, mi scusi. Servono a determinare la politica internazionale. No. Servono a dirigere i nostri dirigenti. No, ma ho capito, cioè nel senso il controllo mentale sui cervelli renderebbe i nostri dirigenti, la nostra popolazione più a favore degli Stati Uniti o più a favore di Israele, non ho capito bene. No, la cosa è più analitica, molto più analitica. Più analitica. In che senso? Non è un controllo, sì, sulle masse. No. E che cos'è? È il controllo su alcune figure chiave del mondo, della scienza, della politica, aspetta, del giornalismo, aspetta, e così, sì, via. Ma scusi, lei che c'entra? Perché è al centro di questo intrigo? Perché io ho visto un dispositivo sviluppato a partire da questa tecnologia proibita. E dunque, da allora sono nel mirino dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale. E dunque, una volta che è nel mirino, aspetta. Una volta che è nel mirino dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale, quali sono le ripercussioni sulla sua vita? Le ripercussioni sulla mia vita sono sostanzialmente, io non ho più privacy, perché tutto quello che so è a disposizione dell'agenzia. Poi cazzo, io non ho più un modo, ho sostanzialmente un'interferenza continua sul mio sistema nervoso, per cui non riesco più a dormire. Ma perché è pazzo? Per i satelliti. Io capisco che ci siano delle difficoltà dalla vostra parte. Giotti, scusi, Giotti, le uniche interferenze, il satellite spia Parenzo. Voglio dire, le uniche interferenze che lei sente nella sua testa, cioè quel ronzio continuo che sente. Lei cosa sente, Giotti? Non c'è nessun ronzio. Perché non dorme lei? Perché non dorme? Ma non dorme perché è completamente andato di cervello. Mi rendo conto delle vostre difficoltà, mi scusi, però Perché non dorme lei? Ma non dorme perché è uno spostato. Non dormo perché mi spaiono maglioroni da un cannone orbitale sul sistema nervoso. Cos'è che spaiono, scusa? A una certa numero, no, di ma io le consiglio scelte dall'Agenzia di Sicurezza Nazionale. I maglioroni, questi maglioroni. Ma i maglioroni, i miei coglioni, no, i maglioroni. Sta dicendo delle cose folli. Si rende conto o no? No. Si faccia curare maglioroni. Si deve far curare diretta a me. Mi dia retta, no, maglioroni, i miei coglioni, no, maglioroni. Deve permettere di maglioroni usare un simile tono su l'ultimo degli sciocchi, caro signore. Che fa di mestiere lei? Che io ho rivelato ai servizi segreti russi l'esistenza dei servizi satelliti. Ho un riscontro scritto mandato dall'FSB che risponde precisamente alle informazioni che gli ho fornito. Aspetta. Scusi, non Giotti, solo, ho un riscontro del Vaticano. Sì, Vaticano. Ho un riscontro di altri soggetti. Che mestiere fa lei? Non pensavo che la diffusione della malattia mentale fosse così ampia in questo paese, però. La malattia mentale è un'ipotesi facile questa. Lei che mestiere fa? Un malato di mente difficilmente riuscirebbe a tenere testa. In ogni caso, che mestiere fa lei? Ma nessuno, ma cosa? Docente dove? Matematica in una scuola superiore, pure. Agrario, dove sono estremamente apprezzato dai miei colleghi. I suoi studenti che dicono? I miei studenti mi rispettano e io evito di investirmi con un intrigo internazionale, ovviamente. Con l'intrigo internazionale in provincia di Pistoia. Cioè stiamo parlando, stiamo parlando di un intrigo, mi calmo perché sono un po', queste cose qui mi fanno incazzare, chiedo scusa, ma è un problema mio, mi dispiace. Cioè stiamo parlando di un intrigo internazionale, prego, esatto. Dice prego, porca puttana, e dice prego, e quell'altro che gli va dietro. Allora di un intrigo internazionale che sarebbe in provincia di Pistoia perché protagonista. L'intrigo è internazionale, non è in provincia, con dei satelliti che ne sono stati ficcati nel cervello. controllati, no, ma nel cervello lei, amico mio, se lo deve fare visitare. Lei è un venduto, signore. Ma sì, venduto, da... un venduto, signore, al grande capitale, agli Stati Uniti, ma e probabilmente a Israele. Beh, Israele, questo è già stato detto tante volte, ma verissimo. Adesso si legga qualche articolo, non dico per forza mio, ma insomma su internet c'è un mondo sul remote neural monitoring, un mondo di documentazione che lei può andare a consultare. Giotti, la saluto. Ciao Giotti, la saluto. Arrivederci. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La zanzara. Ha! Dopo aver coricato il figlio, il padre nella stanza sua si veste, guardando malinconico il giaciglio di sua moglie grassa in sottoveste. E mentre gira piano la maniglia per evadere dal suo tormento, esce impertinente il ragazzino, gli chiede: padre, dove stai andando? Ha! Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, non c'è niente di male, sono eterosessuale. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans, solamente con i trans, ribadisco, con i trans. Ha! Ormai piagnucolante il fanciulino gli chiede: padre, cosa sono i trans? Ma come fa a spiegare al suo infante? Son donne dal clitoride ingombrante. Gli dice: il trans è una cosa bella, è come aver fratello con sorella, ma uniti in una persona sola che t'ama con tutto il cuore in gola. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, ho già l'appuntamento, tu mi stai trattenendo. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, ti porto, lo prometto, quando ci avrai il pizzetto, così andrai a trans, anche tu andrai a trans, finalmente andrai a trans col papà. Intanto, caro David, leggo sulla stampa di oggi: corso a Biella, profughi, come andare in bicicletta. Un corso compreso di kit sicurezza finale per imparare, sì, ad andare in bicicletta. Ma mi sembra, cioè, no, ma dimmi, adesso dimmi. Ho capito che stai preparando la puntata di Dalla Vostra Parte, no. E stai scrivendo il programma di Noi con Cruciani, no, voi con Salvini, amica e tua sorella non si sa con chi. Però non è questo il tema. Il tema è dite che i profughi non lavorano e che non fanno un cazzo, scorrazzano per i parchi, fanno la pipì in giro. Questo mi sembra però abbastanza evidente, no, la pipì, no. Dalla Vostra Parte. Allora, corso compreso di kit. Allora, fanno dei corsi, no, non va bene perché gli paghiamo anche i corsi. Mi dici tu che cosa devono fare questi? Ma me lo vuoi spiegare tu? Allora, un corso compreso, non fanno nulla, dice, non fanno mi nulla. Fai leggere. Fanno il corso per andare in bicicletta? No, non va bene che facciano il corso per andare in bicicletta. Siete strani parecchio voi di Dalla Vostra Parte, però. Ma io non sono né di Dalla Vostra Ma Parte. Sì, dalla, voi con io Salvini. Sono io con Cruciani, io sono appunto, io però con Cruciani, sì, io. Un corso compreso di kit sicurezza finale, vabbè, certo, per imparare ad andare in bicicletta, quanto la prefettura di Biella ha deciso di coniare a favore dei richiedenti asilo, sì, politico. E per attivare le lezioni si è deciso, sì, di coinvolgere come insegnanti poliziotti. Ottimo. Cioè, fammi capire, arrivano i profughi, non si sa ancora se possono restare o no, essendo tecnicamente clandestini, anche se non ti piace questa parola. Gli i poliziotti pagati da noi pagati da noi, fanno corsi a questi signori, cosa che non succede. Non è che i poliziotti insegnano a mia figlia ad andare in bicicletta o a tua, tua figlia non ha bisogno, cioè a me che gli ho insegnato ad andare in bicicletta. Il progetto preso anche ad esempio dal ministero rientra nel quadro delle iniziative volte alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della sicurezza stradale in ambito provinciale. Mi pare ottimo, mi pare. Il ciclo giusto di incontri per rendere note le nozioni base del codice della strada vede la collaborazione dei gestori dei centri di accoglienza straordinaria. Certo. Cioè, tu capisci, no? Cioè, tu hai piuttosto capito che farli bighellonare e tenerli rinchiusi in questi corsi, centri, come andare in bicicletta, pagati da noi. Pagati da noi. Ma sono soldi ben investiti. Se ti piace così. Se a te, Parenzo, a me piace così. Siete persone miserabili, ma di animo miserabile, perché qualunque cosa riguardi i rifugiati, non i clandestini, la parola è stata abolita, non esiste più. No, rifugiati l'hai abolito tu, io la uso ancora. I rifugiati, i migranti, i cercatori di felicità, anzi chiamiamoli così, cercatori di felicità, quelli che scappano dalle guerre, cercatori di felicità. Diritto alla felicità, come c'era la Costituzione americana. Mauro da Mantova, credo sia lui, è tornato anche lui. Vai, Mauro. Mauro, domani, tra l'altro, compie 58 anni. Applausi per signor Mauro, in diretta qui alla Zanzara. Oggi, applausi. Auguri. Auguri, Mauro. Grazie. Ho chiamato tardi perché ho il telefono con la mia patatona. Ciao, Sara. Ma che cos'è? Non esiste, non è qua. Ma scusa, è inventata. È una prostituta di 70 anni oppure un nome inventato, sicuramente. Comunque, però scusami, Mauro. Non ha nessuno. Cioè, il giorno del suo compleanno. Il fatto che lo festeggi qua vuol dire che non ha nessuno. È un poveretto che non ha nessuno. Che sei un coglione, che ti odiano tutti a volte. Ragazzi, però, non possiamo iniziare sempre così. Allora, Mauro, qui non si saluta nessuna patatina, patatona. Qui non è che è radio sgurgolo, radio bubù. Ma quella è quello che piace a me. Ma chi se ne frega, ho capito, amico mio. Ti ho già omaggiato con il tuo compleanno, 58 anni. Diciamo che li dimostri tutti. Hai diversi acciacchi. Mi scrivono, hai diversi acciacchi. Io li dimostro tutti. Ma che cazzo dici? Ma scusa, mica ti ho detto che sei un ricoglionito. Io schizzo tra l'altra settimana. Che fai? Schizzo tre volte. Vabbè, ma adesso perché devi usare questi termini? Ma dove mai? Ma che dici? Ma che c'entra? Ma uno è bravo Una volta, forse scopavi cinque volte a settimana. Adesso con i problemi al cuore che hai. Ma no, ma quello è niente, problema al cuore, problema alla testa. Ma non sono mai comprato di mala come quel coglione che era a fianco. Vieni domani a fare l'aperitivo. Che ci voglio le patatine? Te le piazzo in faccia, coglione. Mauro, devi stare tranquillo. Allora, dimmi qual è il punto. Perché hai chiamato, Mauro? Dimmi perché hai chiamato? Deve sparare coglionate perché su che cosa? Sono solo. È un samaritano. Vai a fare il culo, ma che non può essere un samaritano. Prima c'è la speculazione. Ignorante, fumaro, che non se ne aveva. Ma perché con te, con Soros, 20 giorni fa, se mica è stato quel ragazzino di 17 anni che ha speso 400 euro per scaricarsi i tracciati radar tra le navi dell'OMG, le navi che partivano dalla Libia, andavano a Malta, è un tema troppo grande per... con 400 euro è un tema troppo grande. Cos'è consulente della procura di Catania? Sono clandestini, sono immigrati, sono cercatori di felicità. Stai calmo. No, magari vogliamo sapere. Allora, scusate, io ti dico, sono diventato anoressico. Peso 109 kg. Quanto pesi? 109. 109, 109. E se gli do uno schiappo quel coglione lì, non lo trovano neanche più le anagrafe. Sono imbecille. Ma io non ho capito una cosa, ma perché? Ma non ha una vita lui, però. Ma 109 kg? Anche il giorno del suo compleanno. Essere vivente, nemmeno essere umano. È una persona sola, mi dispiace che nel giorno del suo... Faccio un appello a Soros, alla fondazione Soros, che gli mandi un regalino. Aspetta, lo immagino già. Cosa? Sono coglione, che arriva a casa prima del previsto, prima del previsto, e si trova 5 minuti no, no, no, no, ma che è sta roba, dai. Allora, chef. Aiuto, polizia, polizia, polizia. No, no, no, no, aspettate un po'. Alla Fantocchi. Si ingrifa e si tira le raspe. Ma guarda, no. Che le guarda, sei un Mauro, Mauro, Mauro, Mauro, scusa. Sei un cuccone. Ma perché devi dire queste cose qua con la bava alla bocca? Cosa? Ti fa ricordati ti... Ma perché? Perché ti parte la vena, la vena? Perché è un bugiardo? Sai che è peggiorato? Sì, perché gli parte la vena con te. Gli parte la vena con te. Ma è peggiorato. Ma perché ti parte la vena? Questo, secondo me, è parente di quello dei satelliti in testa. Sai, alla fine. Perché ti metto le mani addosso, ti mando all'ospedale. Non all'ospedale. Io ti rovino la faccia. Ma perché ti parte la brocca? Perché ti parte la brocca? Perché ti parte la brocca? Ci sono tante persone che non arrivano alla sua età e lui invece ci è arrivato. Però. Ma perché? Io ti dico una cosa, Mauro. Tu, cento, perché non vai da Lemme? A Lemme io non lo considero un po' un goliardico. Ma perché non vai da Lemme? 109 kg, vai da Lemme, no? Vai da Lemme. Ma ascolti, io se voglio rimagrire, rimagrisco. Io se faccio Lemme, quando ho fatto la dieta, ero 73 kg. Devi però, cominciare a stare meglio però, di testa, però sai, perché tutto dipende da lì. Quando rimagrisci dopo, cosa succede? Che ti manca la forza, perché io certo. Ho le ossa grosse, non certo. Posso dimagrire più grossa di tanto. Ossa grossa e cervello fino, cioè te, altro che... Io ho il cervello più fino di te, imbecille. Sì, sì. Talmente fino che ci vuole il microscopio per vederlo. Ma sono più acculturato di te, coglione. Ci vuole il microscopio per vederlo. Il microscopio, coglione. Ignorante di un tanto, io sono Mauro. Vent'anni non hai preso la laurea. Io credo che sia d'accordo con... Io credo che sia d'accordo con lo chef Rubio, Mauro, però. Sul... Beh, sicuramente. Quando... Non lo interrogherei, però, su quel tema. È troppo grande. Lo chef per Rubio, sai chi è lo chef ma Rubio? Figurati, ma mi sembra di averlo sentito. Sì, ma non sai sa niente. Quando dici così, vuol dire che non ha capito un cazzo, dai, non sa niente. Ma mi sembra di averlo sentito. È come dicevo io quando mi interrogavano in greco. Dice la versione di Senofonte, ma mi sembra di averlo sentito. Sono tutte tv ebraiche, no? Ma che ebraico? Questo è uno chef italiano. Che cazzo c'entra? Vedi che non lo sa. Quelle figure ebraiche che ma non c'entra niente con le figure ebraiche. Diamogli fiducia un attimo. Dove? Vedi, diamogli fiducia. Diamogli fiducia. Dove hai sentito parlare dello chef Rubio? Sì, allora, diamogli fiducia. Aspetta, allora lo chef Rubio. Lo chef Rubio. No, diamogli fiducia. Dove hai sentito parlare dello chef Rubio? Cosa fa lo chef Rubio? Mi fai una cortesia. Cosa? Mi fai una cortesia. Tu mi devi mettere in collegamento con sto deficiente di Librandi. Perché l'ultima volta che no, Librandi oggi è troppo. Oggi è troppo. Ti posso mettere in collegamento con la signora Esther, se vuoi. Con Esther. Allora vuoi far saltare il testosterone a 1000. C'è l'Ester, quella del camper. Ma che donna, che gnocca. No, ma, ma che c'entra? Quella è Lores. Che cazzo c'entra? Ester è quella che dice che non vuole. Ma stai calmo, sei troppo esagitato. Ho sbagliato con Lores. Chiamala Lores. No, no. Tra matti si attraggono, effettivamente. No, Ester è quella. Pensa che figlio salta fuori. Pensa solo questo. Aspetta, parla con Ester. Pensa che figlio può saltare fuori tra la Lores e Mauro D'Amato. Parla con Ester, quella che non vuole le parolacce alla zanzara. Pure Frankenstein Junior. Uno che rimanga. La vecchia di merda! Chiamala Lores. Aspetta. Pensa da un'unione tra Mauro da Mantova e la Lores. Ma che figlio salta fuori? Siamo momentaneamente assenti. Come siamo momentaneamente assenti? Scusa, non c'è. Quella vecchia di merda, ma aspetta, c'è con quella vecchiaccia schifosa? Ma quella. Scusa, ma chiamala Lores. Ma vecchia di merda! Ma perché, poveraccia? Chiamala Lores. Ma perché una vecchia di merda? Ha parlato il giovanotto. Ha parlato. Ha parlato il giovanotto. Hai ragione, che ci hai fatto bene insultava. Ho goduto come un riccio, sta vecchia schifosa maledetta. Ha parlato il preside della normale. Aspetta, rispondi tu. Sì, sì. Pronto? Pronto, signora? Salve. Sì. Ma lei è la signora Esther? Sì, ma io salve. Quando lei parla alla radio devo spegnere brava, perché le dice brava. Talmente grosse. Brava, signora Esther. Scusi, brava. ma lei non l'abita. Lei ce l'ha sempre... Con gli immigrati, con gli immigrati, è meglio che si tappa un po' la bocca. Ma no, è io meglio. Con gli immigrati, se non lo ritratto bene, gli faccio, ci faccio il sapone io con gli immigrati, quindi... No, questo è brutto, bene, questo è brutto. Questo sta schifoso. Guardi, noi italiani abbiamo tutti i nostri difetti, ma di gente come lei ne dobbiamo aver pochi, altrimenti sprofondiamo tutti. Ma meglio, ma che profondi lei? Tanto lei non conta un cazzo! È già vecchia! È già una vecchia! Ma come vecchia? Ma io, sono vecchia, come cosa vede? Io sono vecchia, canto, parlo, fa tutto quello che deve fare, ma anche se sono vecchia. Ma però non hai tante cose da farle imparare! Sono stati sfrattati! Devo vado a dire chi è stato sfrattato! Gli togliamo in macchina e gli immigrati clandestini all'hotel! Ma vai a fare il culo, vecchia di merda! Ma gli immigrati! Ma perché deve andare a fare il culo? Scusa, la signora è così gentile, digli qualcosa. Aspetta, stai zitto, fai parlare Esther, dimmi. Sono persone che scappano dalle guerre. Bravo. Ci saranno anche lì delle persone, dei delinquenti, come ci siamo in tutto il mondo, ci sono. Mauro, come rispondi, Mauro? No, che ci hanno rubato la bicicletta, era un negro di merda. Ma quale bicicletta? Ma che c'entra? Ma cosa è successo quel negro lì? Ma che c'entra? Bicicletta, tale rubato. Ma perché protegge? Lei protegge i negri, no? Ma non protegge i negri, la signora Esther. Esther, rispondi un attimo. Aspetta, Mauro, Esther, rispondi. Ma guardi, sono neri, sono bianchi, sono tutte persone. E più, se lei, senti, non so sotto, se lei ha un figlio, ma senti un padre deve augurarsi che un, senti, figlio l'altro, sia nei panni di, senti, quel l'altro, povero ragazzo. Senti come latra l'altro, senti la, senti la, la, se li prende a casa sua, ecco, a casa sua, come latra. Ma per... senti come latra. Ma perché gli dici vecchia di merda a questa poverina? Scusa, ma perché questa qua è una comunista, quel mattino ai suoi 70 anni. Ma perché? Ma perché urli con questa? La trasmissione che si chiama Crash Culture, scontro culturale. Ma scusa, Esther, dobbiamo fare l'operazione. Ma questo è uno scontro culturale. È uno scontro culturale importante. Mauro D'Amanto, ma Esther, da dove chiami? Tu da dove chiami? Abbiamo chiamato noi in realtà. Quale città sei, Esther? Io sono di Melegnano. Melegnano, qua vicino. Dunque, vi potete anche incontrare con Mauro. Ma pure... no, per l'amor di Dio, Ma scusa, non ti piacerebbe incontrare? È uno della tua età, potresti avere anche una storia voi due. La signora non ha il gusto dell'orrido, per fortuna. Signora, le garantisco, che se lei attraverso la sala, che se sono io con la macchina, gli vado addosso e faccio la retromarcia per paura che resti viva. No, Mauro, il solito esagerato. Ciao, ciao, Mauro, ciao. Allora aspetti, se l'ho finito con la bicicletta. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Lo scontro culturale, Mauro D'Amanto, ma più che scontro, Esther, lo scrotto culturale. Devo dire che, ragazzi, ai punti non so chi ha vinto, ragazzi, perché Esther se l'è battuta bene. E questa, come si diceva una volta, di Mitterrand, pensate che cosa ti sto dicendo, Parenzo. Sì, c'è la force tranquille, no, la forza tranquilla, la forza tranquilla. Sì, no, bravo, certo, Mitterrand era la forza tranquilla. Sì, ma lui, certo. Esther era la, è la forza con una grande tranquillità. Quella lei, pensa di male. È il delirio. Scusami, Mauro, ma cerca di, secondo me, guarda, non voglio dire niente, ma i punti adesso, quello mi attaccherà, mi romperà i coglioni. Ha vinto Esther ai punti. Ha vinto Esther ai punti. La force tranquilla, direi. Bravo, bravo. D'accordo! Ecco l'altra. Ecco l'altra, ci voleva. La chiosa della signora. Allora, Giovanni dalla provincia di Roma, vai. Chiudiamo in bellezza, ragazzi, pronto? Questa puntata che è stata strepitosa. Vai, vai. Pronto? Dimmi, dimmi, caro, dimmi. Oh, Cruciani, da Roma, no, dalla provincia di Roma. E vabbè, c'è scritto provincia di Roma qua davanti, che devo fare? Vabbè, ma hanno scritto male, Cruciani, Roma. Volevo raccontarti la mia esperienza con lo squirting. Ottimo, dimmi. Allora, tempo fa un mio amico mi consigliò una ragazza conosciuta in chat, perché mi disse appunto che c'aveva questa grande qualità. Sì. Con lui due volte. Sì. Vabbè, io, come vuole Parenzo, l'ho portata a mangiare il pesce, 70 euro un pranzo di pesce alla Dispoli, l'ho portata a casa mia che sta là vicino, sì, tutto quanto. Allora, Cruciani, guarda, io ti giuro, non perché sono forte io, questa appena la toccavi ti allagava a casa. È venuta con un'ora 8 volte, ho dovuto cambiare. le fodere dei cuscini del divano, se no mia madre mi faceva un culo così. Ho dovuto passare lo straccio per terra, ma il mocio, quello che strizzi. Amico mio, è successo anche a me, è successo. E dopo sul letto di mia madre ho dovuto rigirare il materasso, cioè presente, cioè una cosa l'hai vista prima, una cosa, perché tu prima dicevi a quella che veniva 8 volte anche con ora che non era possibile, no? No, è possibilissimo. Io non ho detto questo, non mi ricordo, è quella là che diceva, quella argentina. Sì, che diceva che non ha più, era, no, era in menopausa, no, perché non credevo al racconto, una sudamericana che mi chiama raccontandomi che il marito sta là, il marito col marito, insomma, non mi sembrava verosimile la storia. Vabbè, comunque l'unica, ecco, l'unico drammatico che ho è di non essermi fatto squiscare in faccia, perché comunque era la prima volta che la vedevo. Questo è buono. La prima volta la vedevo non mi fidavo tanto e non mi sono fatto squiscare in faccia. Comunque questo te lo... queste cose non ti capitano a te e rosichi. Vabbè, ma questa scusa. Più di 20 anni più di me. Scusami, Giovanni. Senta, no, Giovanni, non mio. Credo che lui se a lei piace raccontare queste porcherie in diretta radiofonica, dicendo il suo nome e facendo sentire la sua voce, non è detto che gli altri che non le raccontano stiano rosicando. Le voglio far notare soltanto. Ma se non gli è mai capitato, non gli è mai capitato, oppure capito, non lo vuole raccontare. Non è un... due donne, una gli ha messo le cose, l'altra avesse avuto anche due donne. Non è un dramma, non è così, perché non è così. Diciamo. Ma lasciamo bere, ma che dramma è? Non sarebbe nemmeno un dramma se uno ha avuto due donne nella vita. Cruciani potrebbe raccontare. Per me sarebbe un dramma. Se per me arriva a più di 40 anni e ci ho avuto solo due donne, è un dramma. Per chi gliel'ha detto a lei, però? Ma chi gliel'ha detto a lei? Se potessi parlare. Parla. No, Giovanni, io non capito una cosa. Tu. O dopo ti aspetta tua moglie col bastone nodoso se parli. No, quello è possibile. Però che c'entra, Giovanni? E qui è una questione di scelte. Se uno vuole parlare, parla. Non è mica obbligato a parlare. Tu parli del fatto che ti hanno squirtato. E lui non parla delle sue cose nel dettaglio. Esatto, io ogni tanto parlo. Tu vuoi parlare? Parla. Io sono contento che tu parli, per carità. Che dice che hai fatto venire una donna 7-8 volte, 7-8 gambe. Ma è ganassa e il mocio Vileda poi. Ma secondo te è vero? Ma secondo te è vero? Fantastica. Questo sarà bello, sì. Ma secondo lei te è cinese, vero? La cosa bella, lei è cinese, Cruciani. Sì, cinese, dalla Mongolia, lei... ma vattene a fanculo. Cinese, lei, oh, Cruciani, lei è cinese. Sì, cinese che mio nonno. Dici? Ciao, che ciao, cazzo, ragazzi. Perché la cinese non può squistare. Sì, vabbè, dai, ciao, ragazzi, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Beppe, porca puttana. Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.